l'ultima trasmissione a tutti i CD di Sassari e zone di Nicofe, un appello importante, siete pregati di presentarvi sul canale 10, frequenza 27.075, grazie. Cosa c'è, i megafoni? Meno male lì, l'appello è valido. Cosa stai usando, il megafone? No, senza megafone, a voce nuda. Inizio trasmissioni, ore, che ne sono, aspetta che poi dormo, ore 17 e 18. Come faccio a entrare? Sei anche fortunato, mi stavo sbagliando, non dormo, invece. Mi ha acceso la televisione qua, se no mi addormento troppo presto. Gran bella giornata da mare oggi, proprio da mare. Sì, oggi va bene, veramente, ho fatto una bella giornata e sta continuando a fare belle giornate. Adesso lo vediamo domani se continua, ma mi sa che domani cambia però. No, andato anche domani sole e poi c'è una perturbazione, insomma, non niente di particolare, dai. Allora, ti è piaciuta questa Italia? Sì, diciamo che ha fatto una bella partita, eh. È una bella partita che ho fatto. E vabbè, è andata bene, due gol, tranquillo. Il primo un po' fortunato, perché c'è stata la deviazione di un difensore, ma comunque il gol di Barella è sempre valido, era sempre bello. Perché il tiro era fuori aria, violento e anche preciso. Può darsi che l'avesse parato il portiere, chi lo sa, senza deviazione, però ci sta anche quello, fa parte del gioco. Beh, lui questi gol li ha sempre fatti da fuori aria, c'è un bel tiro. È bello quel disimpegno sulla fascia di Immobile, perché vabbè, lì non sbaglia. Quel ragazzo fa strada, quel ragazzo l'ha detto anche Mancini, fa strada. Quel ragazzo al momento è più forte di Dybala e io non mi sbaglio, mi appunto i fini, perché io sono convinto, al momento è più forte di Dybala e quel ragazzo fa veramente strada, perché ha una prestanza fisica non indifferente, primo. Secondo anche una tecnica raffinata, già l'abbiamo visto negli scatti, nei dribbling, non si perde. E anche una visuale del gioco molto importante, perché si spostava continuamente, si metteva in posizione dove poteva arrivare il pallone. E purtroppo è stato servito poco, però piano piano, dai. Lasciamo fare strada alla nazionale, che ieri si è comportata bene, dai. Quella bella già lui lo ha mangiato, Cisciu, quanto è forte, amico, è forte davvero quel ragazzo, diciamo, ha 36 anni. Ma non si rende conto che ha un po' i movimenti anche alla nuova, quando ha giocato sulla sinistra, che poi si è portato a destra, eccetera, vabbè, si è portato continuamente anche centrale, ha giocato. Ma quando ha fatto quei dribbling dalla sinistra, quando stava giocando a sinistra, capita, aveva non è più nemmeno lo stesso stile di Ronaldo lì. Vabbè, non è un paragone, è da fare, per carità. Però mi sa che quello sta imparando molto da Ronaldo. Visto come si solleva in testa, come dribbla, cioè non è un ragazzino, quindi anche lì può contare tanto Mancini. Ho visto una bella squadra, con questi elementi una bella squadra. Secondo me però dall'altra parte è meglio Spinazzola di cosa, come si chiama? Beh, Spinazzola indubbiamente è un grandissimo giocatore, però bisognerà vederlo adesso con l'affiatamento soprattutto di questi giocatori che lui non conosce o che conosce solo per aver visto partite, eccetera. Una cosa è certa, è nella Juventus Spinazzola per me è meglio di Alessandro, perché Spinazzola è un laterale d'attacco che non finisce mai, è più bravo di Alessandro. Ma perché mi pare che giochi sabato alle 18 e poi c'è il 2 contro il sabato prossimo alle 18, poi c'è il 2 contro il Cagliari e poi insomma devono preparare questa partita con l'Ajax che non è facile, non è facile, con la speranza che siccome l'Italia deve giocare di nuovo mi pare martedì, quindi con la speranza che non arrivino stanchi, soprattutto Borucci e Chiellini. Ronaldo sì, ha giocato bene col Portogallo, ma in confronto stanno andando molto di più gli altri. Vabbè, è chiaro. Caspita, Ronaldo adesso quanto tempo era per giocare con la nazionale? Era 9 mesi, praticamente dal mondiale, per cui questa è la prima volta che si è presentato e dovrà giocare ancora adesso la seconda partita. E a quanto sembra Negri vuole farlo riposare poi con le prossime due partite, devo far riposare proprio in virtù della prossima partita con l'Ajax. È vero, speriamo bene quello che dice. Con Cagliari lo vuole fare riposare, con la Spada vuole fare riposare proprio per averlo fresco con l'Ajax. Io non l'avrei fatto riposare per quello che costa, capito? Non devi riposare proprio nulla, devi giocare, devi giocare, perché a Cagliari non è facile la partita, in casa contro l'Empoli non è facile, e contro la Spal non è facile, ok? Sia Cagliari, la Spal e l'Empoli non sono squadre per niente. La Spal ha picchiato la Roma, l'Empoli ha vinto fuori casa, il Cagliari già hai visto che ha battuto la Fiorentina. Cioè stiamo attenti, non manca un attaccante del genere, o lo rimpiazzi con uno che sai che può fare quasi le stesse cose, ma mi sembra che Mandzukic, ho visto che è molto spento, tant'è vero che è stato convocato anche nazionale, molto spento rispetto a qualche mese fa. Dybala potrebbe esserci, non potrebbe esserci, l'attacco è sempre quello, potrebbe giocare Kane, Bernardeschi, però non abbiamo Cuadrado, non abbiamo Douglas Costa, e allora? Forse Douglas Costa, sì, forse quello sì, forse. Devo vedere, anche se ancora non era perfettamente guarito, ma quando a giocare con Cagliari con la Spal, guardate che si riprenda veramente. Non lo so, guarda, vabbè, se ti bala, quello lo decide, sperando che riesca a fare una bella partita, una grande partita, perché se no poi io di bala, a me non so, mi stavo, diciamo, dando un po' di fastidio vedere un giocatore come di bala in quella situazione. Tanto che vabbè, lo sappiamo, Mando che si è premuto troppo nell'arco del campionato e anche ricominciando su pezzo dal mondiale, Mando qui aveva fatto un bel mondiale, l'aveva fatto e ha continuato sempre con quella forma fino a qualche partita fa e adesso chiaramente è un po' giù di corda, ha preso troppe cartucce evidentemente, si riprenderà, speriamo subito. Ma io non si può permettere di avere fucili scarichi, devono essere sempre carichi, capito? Perché il fucile scarico non spara, capito mi hai Giulio? Quindi Mando chi ce lo sa, che il suo gioco deve essere quello, l'alternativa è quella tra lui e Dybala. E quindi adesso lui mondiale non ne ha fatto, cioè con la nazionale non ha giocato, quindi penso che stia riposando, no? Per essere un po' più in forma, però potrebbe esserci Mandzukic, Dybala, Ken in attacco, perché altre alternative non ne abbiamo, o potrebbe anche essere potrebbe anche giocare Douglas Costa, però non lo so, a me fa riposare Ronaldo nelle partite così, che secondo Allegri, ne abbiamo già parlato, secondo lui però sembrano facili e poi non sono facili, perché quelle squadre giocano per giocare, per salvarsi, per fare punti, mentre la Juve che punti non gli ha fatti nulla, lui cerca di fare questi turnover che sono sempre molto più difficili, molto più difficili. se noi andiamo a riprendere tre punti e il Napoli continua a avvicinarsi, andiamo alle ultime partite che il Napoli ha 6 punti e la Juve si deve fare il culo per vincere il campionato contro i 18 che poteva mantenere, perché col Genoa partita va a perdere, col Genoa, e perché l'abbiamo persa secondo te sempre per qui per la Lega. Perché Alberghi è un disgraziato, per conto mio Alberghi è un disgraziato come allenatore, per carità, lui speriamo che lo mandino via, se io guarda, non lo voglio più vedere con la Juve Alberghi, perché Alberghi è uno che intanto non ha carattere, per esempio. Poi allo stesso tempo non capisce la stilizia di gioco, perché non è stato capace di dare un gioco alla Juve. Giocato forte contro l'Atletico, è perché ci sono i campioni e lei si è salvato sempre per quello, tutti questi anni, si è sempre salvato, perché la Juve è campioni, i giocatori forti, i più forti, e dunque, ma lui non è stato in grado mai di dargli un gioco, calma, e cosa cambia? Ah, ma te la che curi, cos'è questa cosa, calma, ma vuoi scherzare, per carità, io mi auguro proprio che lo mandino via questo campionato, beh certo, sono a fine campionato, speriamo che lo mandino via, non mi piace assolutamente, per cui non so cosa dirci, ma speriamo bene. Ma io spero che la Roma con Ranieri, perché ho visto la squadra che ha migliorato tantissimo, ha un gioco, ho visto che hanno un po' regolato un po' il centrocampo, le fasce, e che la Roma in casa riesca a fermare Napoli. Ma se Napoli dovesse vincere a Roma, noi abbiamo tre partite molto difficili, perché sono difficili, sembrano facili ma non sono difficili, soprattutto quella col Cagliari, e siamo a 15, ce ne andiamo a 12, capito? Napoli si avvicina a 12 punti. E poi ci sono gli scontri diretti che non sono sempre facili, ci ricordi che c'è il Milan ancora, quindi ha bisogno di vincere, deve vincere, se vuole finire il campionato con una differenza reti almeno di 15 punti, non dico di 18, di 20, ma di 15, di 13, basta, deve finire così, non deve continuare a perdere solo perché c'è la Champions, però dillo chiaro e tondo. Io sto cercando di puntare più alla Champions che al campionato, e allora magari i tifosi ci rimangono un po' meglio, no? Ma quanto pensi che lui ha dichiarato che quest'anno vinceva tutto, già si è uscito pure dalla Coppa Italia con l'Atalanta, hai vinto la Supercoppa, va bene, vuoi puntare alla Champions, va bene, vuoi vincere il campionato, va bene, lo dimostralo, lo devi dimostrare. Perché gli obiettivi arrivano dimostrando, se tu dimostri che continui a fare il turnover solo perché devi far riposare i giocatori, ma cosa devono riposare i giocatori? I giocatori devi giocare, non è stato comprato per giocare, non per riposare, non ha mai riposato con Real Madrid, quando mai ha riposato loro con Real Madrid e Ronaldo? Io non ho già mai visto in panchina. Oh, assolutamente, poi Ronaldo è un giocatore che vuole sempre giocare, lui è chiaro che non fa polemiche, perché se un allenatore dice non giochi, è chiaro che lui non fa polemiche, perché l'allenato lì è un vero sportivo, però Ronaldo è uno di quelli che vuole sempre giocare, sempre, perché la sua ambizione è sempre segnare, fare gol, sempre quella, e non a caso non l'ha sempre dimostrato facendo 50 gol a stagione in Spagna. Anche perché io non capisco, ragazzi, e tu hai un Ronaldo, un giocatore di quella levatura lì, adesso capisci cosa vuoi, che un guadagnerebbe un 34enne vecchio o rispetto a Ronaldo, perché anche se Ronaldo ha 34 anni però c'è una differenza enorme come fisicamente eccetera, ha permesso che guadagnerebbe forte quest'anno, ma è quest'anno che sta andando forte, perché gli altri anni non era così, no? Sì, è stato un mediocre, cioè un bravo giocatore, ma non certamente un campione come si sta dimostrando quest'anno. Per cui no. E per prendere anche la questione. città di capocannoniere. È un disgraziato questo Andrisi, no, io guarda, l'avrei mandato via subito al prossimo, per il prossimo campionato non l'avrei voluto assolutamente. Ma Giulio, io penso che gli obiettivi della Juventus siano quelli che sono stati già detti. A fine campionato Allegri va via. A fine campionato, perché è giusto che ha iniziato una cosa e fargliela finire. Vediamo. Però va via. Che vinca o non vinca la Champions, vinca o non vinca il campionato, va via. Va via perché c'è bisogno, basta. Cioè, è andato via Conte. Chi ha vinto tutto? Cosa deve rimanere lui? A fare che cosa? Capito? Comunque, il problema è rimpiazzare un bravo allenatore. Sulla piazza i migliori sono tutti già fuori, capito? Sono tutti già fuori. Comunque, vediamo, io spero solo che non continui a perdere punti, perché se continua a perdere punti io vedo male la Juve anche in campionato. Il Napoli è motivato, il Napoli lo vuole lo scudetto, perché è tanti anni che arriva lì e non riesce a prenderlo, quindi lo vuole. E approfittando di una Juventus in turnover, in calo di fisico, con infortuni, con la Champions, perché il Napoli sta giocando solo per il campionato e per la Coppa Italia, cioè sta facendo Europa League anche, sì, è vero, però dico, secondo me non si deve rilassare molto, secondo me. Lui. Infatti no, non si deve proprio rilassare per niente, e ci mancherebbe altro. Adesso è il momento cruciale proprio, è proprio adesso che deve giocare meglio di come ha giocato fino a questo momento, già lo credo, ci mancherebbe altro, e non vuole vedere, anche se non è una questione del prestigio, per quale motivo tu devi affrontare le partite così e ti fai battere da uno in Genoa e ti fai battere e oppure rischi con una squadra come Empoli, come la Spada. Se va in campo, se va patato, burroetto, noccioline, non lo so, sono consultati anche da poco con Erde, però non riesco a capire cosa abbia in testa, come mai, come hai detto tu, non è stato fatto lo scambio subito, immediatamente a gennaio Dybala con l'altro centrocampista del Real Madrid, non ho capito. Perché aspettano a giugno a fare queste cose? Perché a giugno il campionato è finito e si rubelli. Io lo credo, ma invece così. Adesso diciamo che anche Zidane ha riconfermato con Marcelo che non si muove. Isco a quanto sembra non si muove lo stesso, perché Zidane non vuole mandarlo via Marcelo. Marcelo lo sappiamo, in quella posizione dove gioca lui è il migliore al mondo, però speriamo che invece se ne vada, se ritorniamo la Real Madrid e magari che riesca a prendere la Juve, anche se con la Juve non si è comportato molto bene. Se ritorniamo è una persona che ha un carattere un pochino difficile, però speriamo bene, siccome ha beneficiato con Pérez il presidente del Real Madrid, sarebbe una gran bella cosa se prendesse signor Ramos, quello sì che è un centrale di Aluminio, migliora il mondo, o perlomeno che si compri col Badia una clausola, sì è una clausola molto alta, non mi ricordo quanto è, ma è oltre i 100 milioni, speriamo che possa entrare in una trattativa per cui perché quel bando lo stanno cercando in tanti, ma io penso che Napoli non lo vuole assolutamente, anzi forse nemmeno lui se ne vuole andare da Napoli, che a Napoli è molto ma molto considerato con il bando. No, non te ne mette neanche in testa, Koulibaly rimane a Napoli, tutti i giocatori che erano in partenza con Real Madrid sono già stati riconfermati da Zidane, perché quelli che volevano andare via perché sapevano che doveva arrivare Mourinho. Tant'è vero che, come hanno saputo definitivamente che Mourinho era il nuovo allenatore del Real Madrid, non volevano scendere in campo: o se ne va lui o ce ne andiamo noi. Quindi Zidane mantiene la stessa squadra e lo rivince, la rivince la Champions al prossimo anno. A vedere se la dovrà vincere, ma stai scherzando? Alla grande, rimangono tutti, non va via nessuno, c'era scritto su Sky, riconfermate i giocatori del Real, anzi Zidane riconferma i giocatori del Real, non va via nessuno, manco Sergio Ramos va via, capito? E io volevo approfittare immediatamente, quando erano tutte e tre in uscita, di via subito fuori Dybala e quell'altro che c'è, che non si vi annuda, capito? E avrebbe preso un centrocampista come Cristiani, e una punta anche Mandzukic, ma cosa ne va, o Dybala, Mandzukic, lui ti vuole la mezza di B, capito? Ho lasciato quel giovane, Michele Ronaldo, un'altra punta, non so, comunque forte, basta, e poi quando doveva uscire Cancelo, Isco, quelli erano da prendere subito, le trattative sono fatte a gennaio Cancelo, Marcelo doveva essere già con la Juventus, e facevi Marcelo, Cancelo, in attacco continuavi a tenere Mandzukic, Ronaldo, Ken, dove andare? Mandzukic lo potevi sostituire con Douglas Costa o con Cuadrado al rientro, buon finito. Infatti ha fatto male sì a non prendere l'occasione al volo, perché in quel momento questi potevano firmare, e sarebbero venuti qua in Italia. Invece la Juve ci ha detto, tentennato troppo e così non va bene, così ce ne lo prendono. Ui. E deve stare anche attento, perché se un coso Marotta che vuole sempre a Dybala vuole, si attenta a Juve, perché non si sa mai a Dybala, perché Dybala non è contento, perché non gioca nella posizione dove vorrebbe giocare lui. E rimanendoci questo allenatore, non lo so se Dybala che rimane al prossimo anno. Premesso che, ripeto, Bomber sta giocando, a me non mi piace, perché non sta vendendo. Per me la Juve gioca in lì, quando c'è Dybala in quella posizione, così, tra le linee, a centro campo, per me Dybala è una nullità, non c'è niente da fare. Dybala deve giocare in punta, possibilmente sempre in linea di rigore, perché al chiuso del gol l'ha dimostrato in diversissime occasioni, in vari campionati. E invece questa Bibi lo ha trasformato, capita, in centrocampista. Uno come Dybala, che è debole fisicamente, che tutte le volte che fa un contratto è sempre per terra. Non rimane mai in piedi, sempre il culo della terra, non è possibile. Ma cosa vuol dire che dica? Speriamo che cambi idea io con questo allenatore. Infatti hai detto bene, tu che conosci il gioco del pallone, hai detto molto bene, non ho compreso perché lo sta facendo giocare lì, quando è una punta Dybala, è una punta, prima di arrivare Ronaldo, chi segnava era Dybala e Mandzukic, chi segnava, quindi è una punta, Dybala deve giocare dietro Ronaldo, capito? È un po' più largo Mandzukic, se devono giocare tutte e tre, se no non se ne va di nulla anche sul ruolo, cosa se ne fa in quel ruolo? Perché lo sta facendo giocare così? Non ho capito. Cioè, cosa la prima da fare a Bentancur? Cosa la prima da fare? Spostalo, quando non gioca a Pjanic, che gioca a Bentancur. A Bentancur fa fare il ruolo di Dybala che sta facendo adesso, Dybala lo metti come punta, è un cretino forte. Infatti, basta pensare che quest'anno ha fatto, mi sembra, solo 4 gol, Dybala l'anno scorso ne ha fatto 20, che non c'era Ronaldo, era lui che giocava di punta. Invece quest'anno ha fatto giocare tutti e due di punta, ragazzi. Tutti e due dovrebbero giocare, non c'è niente da fare, invece no. Ui, provano a dire, quell'altro l'ha fatto perdere, la ragione gli ha fatto perdere quella lì. È un randaggio del calcio. Non è stato capace campioni, che vergogna. Non può certo contarsi che ha vinto lui questi campionati, perché chi li ha vinto sono i giocatori che la Juve gli ha messo a disposizione, non ha vinto questo niente lui. Lui non è stato capace di dare un gioco, tutti l'hanno criticato e tutti lo stanno sempre criticando. Comunque il Rai Sport hanno intervistato anche a Conte, e Conte ha detto che lui è ancora vincolato con il Chelsea, se ne parlerà dopo lo svincolo, quindi non è che qualcuno dice ah, non ci torna più Conte, non è assolutamente vero, Conte non ha nessun rancore, nessun problema con la Juventus, capito? Nulla, quindi potrebbe anche tornare lui, come potrebbe anche c'è sempre il nome di Guardiola, Zidane non c'è più, però al posto di Zidane si è aggiunto Conte. Qualcuno parla anche di cose, come si chiama? È un pensionato, ma cosa ne va? Ma un allenatore che è pensionato, non mi ricordo il nome, che ha allenato anche fuori. Non mi ricordo, non è Sarri, chi è l'altro, vabbè, Sarri è giovane, comunque grande di età. Poi hai detto Marotta, TV, FBI, Icardi, hai capito o no Giulio? La Juventus Icardi non lo vuole soldi per Dybala, è inutile che Marotta continua a rompere le balle. Icardi, la Juventus, non lo vuole, di là, devo fare un jumbo, Icardi Dybala, con una clausola qui là, ma cosa me ne affutta mai di Icardi? Infatti, anche addirittura buone soldi anche, in cambio loro, in cambio alla Fabio, addirittura buone anche soldi, dice, certo, ma io voglio che lascia pregare in quanto a quello, non credo assolutamente, non me ne ho per idea, figurati. A parte il fatto che il Cagli adesso, con questo comportamento che ha avuto, ha avuto sicuramente un calo di valuta, perché non è possibile che un giocatore che si comporta in quel modo possa valere come richiedeva l'Inter, la cifra che chiedeva l'Inter, addirittura 150 milioni voleva. Adesso vuole Dybala e 50 milioni, ma non tenarli. Certo. E io al momento nemmeno la pari lo da lì a Dybala, aspetta un po', ma non per niente, non per il Cardi, perché il Cardi è un gran giocatore, ovviamente è un giocatore che ha scritto il gol, però se dovesse divorziare sì, allora forma tutte la CTI, ma precisamente che è un disabrende la pecca di sta, vai, pucci, passa via. Un giocatore no, a me non piace, inizialmente poteva anche piacermi, ma poi me ne è sceso, capito, non è un giocatore, non ci viene neanche lui, ma ti pare che la Juve devi dare 10 milioni di euro a Icardi, ma non tenanti, ma non usare, manco a pensarci, assolutamente, io penso che il campionato finisca con questi giocatori e a giugno, quando ci sarà il mercato aperto, si vedrà chi parte e chi rimane, capito? In partenza sicuramente c'è anche Douglas Costa, Cuadrado ha detto che non esce dalla Juventus, però Douglas Costa è propenso ad uscire a giugno, finire il campionato, uscire sempre per Real Madrid, sempre Zidane vuole Douglas Costa, vuole Dybala, quindi sai, Douglas Costa, Dybala, poi cosa si può dare? Adesso mi ricordo più la panchina perché è talmente così grande, però realizzare un bel malloppo e comprare un giocatore unico, serio, che possa fare veramente assieme a Ronaldo la differenza, perché io te l'ho già detto, cioè non è questione, perché abbiamo visto la Juventus giocare con l'Atletico Madrid in quella maniera, ma deve incontrare, lascia perdere che Real, Paris Saint Germain sono fuori, attento, deve incontrare Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, cioè sono tutte squadre che io la Juventino, anche da sportivo, ti dico che neanche quest'anno la vince la Champions, la Juventus. Anch'io la vedo molto difficile anch'io la vedo. La vedo difficile. ha i giocatori in grande forma. Con l'Atlante e con Madrid hanno avuto un comportamento d'orgoglio tutti i giocatori, però non è sempre così, no, capita, magari fossero sempre così. E affrontare gente come il Liverpool, come il Manchester City e anche l'altro Manchester United, lo stesso, anche quello, e Barcellona, non è facile. Poi, capita, quello così, e non è un coso, una partita così fra ragazzi, questa è una partita fra grandissimi campioni, altro che lì si deve andare a fare, e se vuole vincere deve essere sempre al massimo della forma e soprattutto al massimo dell'impegno, cosa che Allegri non è capace di caricare i giocatori in quel modo. Vada così, per carità, sicuro. Ma meno male che si è riaggregato Chiesa adesso alla squadra, dopo l'operazione che ha subito, si sta allenando, almeno se non altro qualche centrocampista in più abbiamo, anche se devo dire sempre che per me i giocatori tedeschi fino a questo momento mi hanno deluso. Per me i giocatori tedeschi alla Juve non hanno mai fatto bene, raro qualcuno, ma proprio qualcuno. Fino a questo momento, Ma io a Chiesa preferisco Meraccian, assolutamente, però ti ripeto, lui la squadra che ha giocato contro l'Atletico con l'Ajax la cambia sicuramente, vedrai, avanti a De Sciglio, poni De Sciglio a Porto di Spinazzola, allora vedi. Mette Alessandro da una parte e decide dall'altra. Avrebbe detto, fa dei cambiamenti. Probabile pure che al posto di Mandzukic ci metta Ken, quello è probabile, perché quel ragazzo in una settimana, non sai come è salita, stavo guardando su Sky Sport 24 le quote settimanali, Ken è salito alle stelle. Capito? Perché è giovane, perché sta dimostrando che vuole giocare, sa giocare a pallone. Quindi attenzione che Mandzukic non parta e quindi il posto di Mandzukic anche in Champions lo prenda Ken, ok? E faccia Ken, Ronaldo con Dybala, ok? Perché è troppo giù di fisicamente Mandzukic, non lo so, comunque bisogna vedere. Vediamo cosa ne salta fuori. Una cosa è certa che da sabato si gioca alle 6, sino alla partita dell'Ajax la Juve si deve fare un mazzo, ma un mazzo che non ha nessun riposo tra preparazione e partita. Ma poi deve anche continuare, ammesso che riesca a passare il turno con l'Ajax, e deve anche continuare poi a rimanere sempre concentratissimi, sempre in forma, perché se no se si lasciano andare, lui quando comincia a trovare gente come Barcellona, come Liverpool o Manchester City, lui contro il Manchester United, si è visto come sta giocando adesso, da quando c'è di Mourinho, Pogba ad esempio ha cominciato a giocare alla grande, tutti gli altri hanno cominciato a giocare, prima erano tutti quanti scoraggiati e non volevano più giocare, perché c'era Mourinho, da quando c'è andato Mourinho, Pogba ha dimostrato, ragazzi, che è un vero trascinatore, un vero uomo squadra, e ha rimesso in piedi la squadra, altro che sta giocando bene adesso. Per cui vedremo proprio come lui. Giallo Juve, sto vedendo, Giallo Juve, Allegri, il nuovo contratto è virtuale. E è l'Ubrivia. Ah, se lo manda, non se lo mandi, cosa gli fa il contratto nuovo a questo pellegrino, per carità. Ma sai cosa dico? Cioè, voglio dire una così, al volo. Francesco è meglio di Allegri come allenatore. Di Francesco è una bravissima persona, un grande allenatore, sono d'accordo con te. Purtroppo a avuto un calo fisico la Roma, perché l'ho vista con Ranieri e sta riprendendo marcia, ma tu guarda il Bologna, ha gente una retrocessione, è arrivato Mihajlovic con la grinta che ha come Gattuso e sta portando la squadra almeno alla salvezza. Non dico che debba fare miracoli, però secondo me il Bologna si salva alla grande, perché ha fatto, da Mihajlovic ha fatto due vittorie e un pareggio, cioè non è che, capito? È così, è come se ne parlava, Gattuso qui, Gattuso là. Gattuso ha messo il Milan al quarto posto fisso e sfortunatamente ha perso il derby. Se vinceva il derby erano cacchi da cagare anche per il Napoli, capito? E lì la grinta degli allenatori. Di Francesco purtroppo stava andando alla grande, non è che c'è niente da rincriminarle. Il problema è che la squadra ha avuto un calo fisico, molti infortuni, Rossi era sempre fuori, ha visto, è rientrato di nuovo infortunato, e quando la squadra ha questi cali fisici così, sì, è chiaro che l'allenatore deve cercare di coprire, di fare, però io penso che, come hai detto tu, Di Francesco sia un buon obiettivo per la Juventus, perché quando giocava col Sassuolo, caspita, Sassuolo era fortissimo sia in casa che fuori casa, e su questo non ci piove, però sì, quello l'ho letto, è virtuale, il contratto di Allegri è virtuale, nel senso che terminato il contratto va via, hanno fatto una clausola appunto di sino a fine campionato, sino a fine Champions, insomma, finire il lavoro che è iniziato, però poi va via, tranquillo che va via. E a giugno, ti ripeto, col nuovo mercato si vedrà quale sarà il nuovo allenatore, chi saranno in ingresso e in uscita e che squadra si presenterà il prossimo anno. Penso che ci siano molti cambi. Sì, anch'io penso che ci saranno molti cambi, certo. E beh, ma è anche normale. Per adesso la Juve è una delle squadre con l'età più alta della Serie A, per cui il campo deve rinnovarsi per vari motivi. Primo, perché adesso questi giocatori, questa squadra è assuefatta alle vittorie del campionato e si sa, non credo che possa continuare ancora anche il prossimo anno. Quest'anno vabbè, già lo vince il campionato, magari potrebbe prendere i punti ancora, ma già il campionato già lo vince e dunque sarà di nuovo protagonista anche il prossimo anno in centro, per dire, no? Però non va bene perché tanti che avere una forma è una condizione buona adesso che siamo in finale del campionato e soprattutto nella fase finale della Champions, capita, e invece ha avuto un calo madornale, a parte l'Atletico Madrid, no? Quella di questa è stata una battaglia proprio di orgoglio che ha avuto la Juve. Speriamo che ne abbia ancora tante di queste battaglie così di orgoglio e continui veramente bene. Ma staremo a vedere qua, dai. Speriamo bene, c'era un fischio sotto di te, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. No, vabbè. Ho sentito un fischio leggero, sembrava qualcuno là sotto, non ti ha coperto, però sentivo qualcosa sotto. Sì, vediamo, io sono. I miei obiettivi sono quelli. Secondo me la Juve fa fatica anche a vincere il campionato. Io potrei pensare ad un miracolo champion, però ne dubito molto, Non so, vabbè. Aspetta che vado a bere un bicchiere d'acqua, c'è la gola secca. C'è la finestra aperta, c'è un caldo. Ok, vai. Siamo qua. Intanto io chiamo Franco, se c'è. Franco di Sorso, ci sei? Attento, Giulio. Sì, Franco, buonasera, ciao, brava. Ehi, buonasera a te, buonasera Claudio. Tutto bene? Sì, tutto bene. Grazie a Dio, tutto bene. Stavamo facendo due chiacchiere con Claudio, adesso è andato meglio un attimino, che si era un po' asciugato la gola. Così per dire, oh, che rispettosamente. Capo, io sto rientrando, eravamo in giro facendo col club, abbiamo fatto una bella giornata di fuoristrada, in 4x4, una bella escursione, abbiamo visitato una bella tenuta qui vicino a Uri, che c'è un bel vigneto e produce vino, dai, ci ha offerto il suo vino, sia il bianco che il nero, e degli insaccati spettacolari, dai, un po' di affettati, prosciutto, salsicce, salame, roba così, guanciale, cose varie, dai. E qui sono rientrato, stavo mettendo la radiolina a caricare, perché ci avevamo il portatile, tutti sulla stessa frequenza per non perderci. E ho acceso e vi ho sentito, dai, quindi entro per i saluti almeno, dai, riprendi Giulio. Ok, mi fa molto piacere di ascoltarti, certo. Sì, a me ti sei un po' divertito, certamente, è così. Sì, sono buoni gli insaccati e i formaggi anche, già sono tutte cose buone. Sì, a mia figlia mi ha portato un po' ieri, e è andata in un asilo per vedere un lavoro, e dunque poi gli hanno dato un po' di insaccati e anche del formaggio. Adesso non so se sia buono, ma suppongo proprio di sì, perché è andato a vedere cosa stavano facendo i taglialegna lì, per dare delle direttive, ossia che rovinassero, prima che rovinassero le piante. Appunto. E vabbè, dai, ogni tanto già si procurano anche di queste cose. A parte questo, se le compriamo anche noi, non mancherò mai qua il formaggio a casa. Vediamo se rientra Claudio. Sì, sono qua, ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Mia mamma invece me li ha portati in campagna, mio vicino che ha fatto le salsicce, le ha messe sotto vuoto, le ha messe in freezer, proprio in questo periodo non io volevo mangiare questa roba, le ha messe in freezer, un po' più avanti. Formaggio Fra, ne ho preso una forma lì per fare segni lunedì scorso da quelli della Crucca, della comunità della Crucca, ma ti dico, un formaggio così buono, un semi stagionato, ma veramente molto molto buono. Riprendi Fra. No, ora si fa qualcosa buona, guarda, non so se sia la stessa persona, io ho comprato a Olmedo, sabato fanno il mercatino, e c'è questa signora che vende la salsiccia di Berchita, e in più questi formaggi buoni, che non mi ricordo dove siano, e ne ho preso un quarto di forma, dai. Ti dico che c'è una roba veramente buona, quando capita lì, quando capita il sabato, mi faccio sempre la scorta. Quindi provate che piazzi anche lì a Piazza dei Segni, sicuramente, anzi, perché si fa tutte le piazzette questa signora. Ma qual è quella che c'ha il camioncino col coso, come si chiama? Bello, tutta la roba esposta, quella lì è? Sì, c'è un furgoncino, adesso non mi ricordo cosa sia. Ti lascia la ricevuta, ti compi la ricevuta al posto dello scontrino fiscale, dai. Sì, c'è quella, c'è ogni lunedì, Però ci sono questi ragazzi della Crucca, dove mia moglie va molto lì, perché hanno anche la verdura biologica, hanno l'aria fissata con queste cose, eccetera. I carciofi erano fenomenali l'ultima volta che li ho comprati, tutta roba che fanno loro, capito? E poi sta andando molta più gente, perché, non so se l'hai sentito, hanno fatto un furto allucinante lì alla comunità, hanno portato via bestiame, formaggi, hanno portato via pecore, un bel danno. Quindi hanno bisogno di incrementare un po' di più per, soprattutto con le vendite, tant'è vero il negozio che c'è a Porto Torres, in piazza, sempre pieno di gente, è sempre pieno di gente, hanno avuto molta solidarietà. Il mercatino lunedì è sempre pieno bancone di quello della Crucca, capito? Continuano i lumachi, i lumacconi, io li avevo presi buonissimi, dolci, veramente, però la frutta, la verdura, i formaggi, è allucinante. Tu consiglia che vai al market, compri un sacchettino di patate, io li appendo fuori nel sacchetto, cioè il contenitore, in giro di qualche settimana iniziano a fare fiore, non servono più, capito, non servono. L'ho presa da loro, ce l'ho una settimana, c'è ancora terra attaccata, sono come il giorno che meglio latte, ma così buone, quando tu le fai fritte, rimangono belle croccanti, gli altri rimangono molli, per dirti, capito, questa roba le fanno loro, quindi roba genuina, roba buona, fanno dei formaggi fenomenali veramente, dai giù. Ok, sì, ma... 130 mucche o una cosa del genere, mi sembra. Io vorrei capire come hanno fatto a combattere 230 mucche. Cioè, noi stiamo parlando una madre di mucche così, così imponente, mi sembra che sia quasi impossibile riuscire a rubarla. Poi non so se è stata ritrovata o meno, però vorrei capire come hanno fatto, se effettivamente corrisponde a verità a rubare 230 mucche, non lo so, guarda, veramente. Avanti, fra. È un break, fra. Sì, capo, ha registrato il break, adesso lo facciamo entrare. Sì, Giulio, già ti capisco che difficilmente, è difficile far sparire queste mucche, boh, ma che container, poi o le hanno macellate subito d'urgenza, non saprei come possono farle sparire. Dai, facciamo entrare il break, avanti. Buonasera a tutti, buonasera a tutta la ruota, Gianni, il profeta della stazione, buonasera a Giulio, buonasera a Franco e anche a Claudio. E capa, ciao Gianni, ben sentito, ben entrato in frequenza. Avanti Claudio. Capa, siamo sempre un attimo di bianco, ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Giulio, io so da Giovanni Occulto che è proprio il coordinatore lì del, della comunità della Cucca, che infatti a volte sta anche lui lì per fare segni, tra l'altro anche per lo sovrese, mi ha detto che pecore, 230 pecore, 230 mucche, avevo una nave, 230 pecore, cioè non fermo, mi ha detto 230 capi di bestiame, tra cui pecore, vacche e mucche, capito? 230 pecore, cioè 230 capi di bestiame, tra pecore, vacche e mucche, in tutto, capito? Ah, ecco, beh, allora no, perché io poi mi avevano detto che erano solo mucche, 230 mucche, a muovere una volta 230 mucche se ne vuole, intanto ci vuole tempo, ci vuole, vabbè, il tempo magari non l'hanno trovato per rubare. E caspita, non è una cosa imponente, non è possibile che uno possa rubare così in una notte 230 mucche, boh, quello che ci dice, e per dopo li carichi. Dove li carichi tutti questi animali? Ci vogliono 10 camion, ci vogliono con rimorchio per mettere tutte quelle mucche. Le mucche non sono, sono animali grossissime per cui ne prendono di spazio. Non, è, non è così semplice. Va bene, ciao Danilo, cioè, ciao Gianni, avanti, che prendi Gianni. Eia, eia. Non so se l'avete notato anche voi, ma oggi il QRM è solitamente è molto basso rispetto agli altri giorni. E quello è il sole, le giornate di sole, quando c'è vento e pioggia sole il QRM. Giulio, allora, sempre così per sentito dire, dovrebbero essere più di un centinaio di pecore. Caricare un centinaio di pecore in un camion di quello adibito proprio al trasporto bestiame è una fesseria, non ce ne stanno. Ce ne stanno, tranquillo. Quindi quando tu inizi a già caricare più di 100 pecore, poi nell'altro camion, secondo il Trento, una cinquantina di vacche, tra vacche, vitelli, eccetera, è facile perché sono mezzi proprio adibiti al trasporto bestiame. Il problema è che non se ne è accorto nessuno, nessuno, quindi sembra gente, così dicono, del posto, molto molto esperta a fare queste cose, capito? Perché e loro si sono accorti solo quando la mattina tutto il personale è abilitato a fare le pulizie nelle sale, nelle cose, insomma, dove devono andare, perché lì c'è un'organizzazione allucinante. Quando hanno aperto ma cava tutto il bestiame, capito? Quindi non se ne è accorto nessuno. Perciò tu pensa che lavoro hanno fatto in silenzio, non riesco a capire, però è così. 230 capi hanno dichiarato loro. 230 capi, il prete, come si chiama, che lo conosco anche. 230 capi ha dichiarato, tra pecore, vitelli, vacche, mucche, insomma un po' tutto misto, hanno fatto una bella. Un bel carico hanno fatto, e non hanno, non li hanno ancora trovati, quindi non si sa che fine abbiano fatto, se al momento che hanno rubato, si sono imbarcati o dove sono andati a finire, però vediamo, non hanno ancora trovato. Beh, Giulio. Ok, sì, beh, indubbiamente c'è stata una grande organizzazione. abitazione di ladri. Io per un attimo quando me l'hanno detto, ma non saranno proprio quelli lì, di quella zona, cioè di quei ragazzi che lavorano lì, no, che l'hanno fatto sparire, perché riuscire a far sparire 230 capi di bestiame, ci vuole un'organizzazione non indifferente. Per cui gente classica del posto, gente che è a conoscenza di tutto e di tutti, quelli che circondano appunto l'azienda. Perché non è possibile che si possa riuscire, ci vogliono quattro vagoni merci, ci vogliono a ferrovia per poter imbarcare tutti, sono parole, comunque l'hanno fatto e è riuscito, io stavo. Riprendi Franco. No, come dice Claudio, per le pecore non c'è nessun problema, caricarle, c'hanno quei camion che sono a tre piani, a quattro piani, ce ne stanno pecore dentro, strippate. Oh, sarà quel mago, come si chiama quel mago che faceva sparire un sacco di cose, la Statua della Libertà, David Copperfield, deve essere lui. Cosa ne pensi Gianni? Gente esperta del settore sicuramente, che conosceva bene cosa stava facendo e soprattutto il posto, non sicuramente degli ultimi arrivati, insomma, dai. Quindi sì, ho saputo della cosa tempo fa. Insomma, comunque sia, non è una cosa così facile da fare, anche se le pecore sono più piccole, non spostarle, insomma. Non è così semplice, quindi insomma, è gente preparata. Non è solo gente preparata, io dico che gente che è a conoscenza di tutto l'andamento dell'azienda, perché non è possibile se no poter organizzare un punto così grande. Caspita, stiamo parlando di 230 capi di bestiame che ci vuole tempo, anche se sono pecore, anche se ci sono centinaia di pecore, è tutto quello che vuoi. Ci vuole sempre tempo, ci vuole. Quando mai io non vedo nessun movimento, anche se era tardi, che era di notte. Nelle campagne vicine, quindi nessuno si è accorto di niente, non hanno visto nessun movimento. Strano veramente. E per quello che ho pensato, ma non saranno quelle persone che lavorano lì invece, no, che hanno fatto sparire tutto. Io non voglio essere così cattivo, non sto accusando nessuno, però diciamo che un pensiero l'ho fatto veramente, perché un'organizzazione così non è facile nemmeno da fare, da organizzare, per cui non lo so, vabbè dai, vai qua. Beh, non c'è niente di certo o di concreto, è chiaro che la magistratura, la denuncia che è stata fatta da parte del direttore, che poi è un prete, cioè come si chiama, Giotti, no, non la metto, comunque, insomma, si, qualcosa nell'aria si pensa, no, come dici tu, però è chiaro che non c'è niente di certo. Una cosa di certa c'è che molti pastori della provincia di Sassari e del Nuorese hanno già fatto recuperare gran parte delle pecore. Gran parte delle pecore, mi pare, stavo leggendo il giornale l'altro giorno, proprio in quella di Sassari c'è un trafiletto, anche qualche vacca e qualche mucca. Vitelli purtroppo, chi è che trilla? Però già ci tirano mucche e vacche, insomma, va bene. Ma già un centinaio di pecore quasi le hanno recuperate, perché i pastori della provincia di Sassari e del Nuorese, mi sembra che hanno dato una 15-20 pecore a testa alla comunità. Capito? Pecore da latte, perché loro non ne frega niente di pecore da latte, nel senso che già pronte per poter far sì che ritorni alla normalità la vendita del latte, perché la vendita, oddio, loro vendita non fanno, perché hanno tutto lì, hanno il caseificio, hanno tutto lì, quindi, però che ci sia nuovamente la ricrescita del latte, cioè quello che è venuto a mancare con un centinaio di pecore, non sono tanti litri di latte al giorno, e quindi riprendere nuovamente la quotidianità, e sembra che ci siamo quasi arrivati, diciamo, questa è la solidarietà che hanno già avuto. Ok, avanti fra. Sì, capo, no, c'è sempre stata questa storia qua, nei patto di Sardi. In caso di furto di bestiame ci sono sempre messi una mano sulla coscienza, per dire, e hanno sempre creato il greggio al poveraccio, dai, 10 te ne do io, 10 un altro e si tira a campare, dai. È sempre stata questa buona legge. E poi per quanto riguarda, mi ricordo qualche tempo fa, prendevo i maialetti sempre in comunità, però a Sassfru, non so se conosci quella che c'è a Silico, Giulio. Io le ripeto, non voglio essere assolutamente accusatore di nessuno, ci mancherebbe altro. Però guarda che io l'ho avuto il pensiero e ancora non me lo so guardare la testa. E quello è il problema. Ripeto, non sto accusando nessuno, per carità, ci mancherebbe altro. Anzi, un po' altro che mi sto sbagliando, ma può darsi anche che ci sia una punta di verità in quello che, o perlomeno nel pensiero che ho avuto, no? Non so, no. Cosa vuoi che ti dica? Dai, fidarsi bene, ma a volte fidarsi, non fidarsi è meglio. Vai Gianni. Eia. Volevo dire una cosa. Ma per Giulio, hai aumentato la potenza per caso rispetto ai giorni scorsi? Perché qua mi sta arrivando, rispetto ad altre volte, mi sta arrivando più forte e più chiaro del solito. No, è più lontano il microfono è molto più lontano. Pensa che ce l'ho collicato nel tavolino, siccome non si sta in piedi, il microfono ce l'ho collicato sulla radio, cioè distante, più del sud, sull'aria. Oltre il braccio, oltre tutto il braccio allungato, è più la distanza del corpo, la distanza del microfono, che si può immaginare, è a 1,20 m di distanza da dove sto parlando io, per cui sarà per questo. Non lo so, pure per quanto riguarda il segnale, no, i vasi sono sempre quelli, per cui non lo so. Sarà forse perché la giornata è migliore e c'è meno QRM e dunque più nitida la modulazione, non lo so già. So solo che Claudio non mi ha detto niente, Franco non mi ha detto niente, Franco stamattina del Franco di sotto non mi ha detto niente lo stesso. Per cui io raramente chiedo come sto uscendo, ma se nessuno mi dice niente so che sto andando bene. Poi io guardo qui la scala della ARC e vedo come si porta la lancetta del microfono e quando fa quel movimento così vuol dire che la radio è buona. E diversamente sarebbe scesa molto più in fondo e allora potevo pensare che ci sia un pochino di troppo volume di mic lì, mentre invece no, va bene così, regolato alla perfezione. Vai qua. K, no, vai bene, c'è 9.15 abbondante. 9.15 abbondante, la radio è super 5, perfetta. Io questa volta mi dicendo a me o con Gianni. Qualcosa in più forse stamattina, come io tutte le settimane sposto, faccio, magari ho toccato un po' più di la potenza, però siamo lì, dai, non è che cambia molto. Va bene, sì, è chiaro che i dubbi te li metti, Giulio, c'è cioè, un'organizzazione, un'organizzazione velocissima, un'organizzazione con tutto rispetto, perché caspita, hanno fatto un grande lavoro. Sì, fra, e tu immaginati che uno della provincia di Nuoro, che ha circa 1200 pecore, ne ha dato 30 di colpo, quindi, gli c'era scritto in questo trafiletto del giornale, e gli altri poi, chi 10, chi 20, chi 15, però sono tutte aziende che hanno molto, molto bestiame, capito? Quindi non è niente per loro, cioè 20 pecore, se vuoi che siano, è un valore un valore proprio stimato in soldi, ma sono 500 euro di solidarietà che stai dando niente. E l'abbiamo fatto noi pastori sardi, noi dalla Sardegna, non pastori sardi, noi dalla Sardegna per quelli del terremoto sono partiti due navi carichi di bestiame per poter far riprendere questi del continente. C'è stata sempre, giustamente come dici tu, questa solidarietà tra pastori, che siano sardi o che siano continentali, quindi non penso ci siano problemi. Oh, so Giulio, adesso è ancora tutto in mano alla magistratura, stanno verificando anche da poco Canale 12, ha detto che c'era un sopralluogo della scientifica, perché sembra che abbiamo trovato qualche traccia che porta appunto a favorire un po' di più le indagini, ma vediamo cosa ne salta fuori. E ovviamente chi si va a Mondial Polo, la stessa cosa. Come fa uno andare lì lampando un muro e sapere che dentro il cavò ci sono 12 milioni di euro, tutti in contanti, già pronti a portare in banca, soldi puliti, senza essere marcati, ma come ti vai tu? Ma buffarendi. C'è sempre un basista, c'è sempre qualcuno che dice oh vai lì che vai a colpo sicuro, a me dammi tanto e tu te ne ridotto, però vai a colpo sicuro che c'è il malloppo, vai giù. Ok, qua, sì certo. Soprattutto pensando a quei ragazzi che ci sono lì, perché se lo fanno pensare, mi si è considerato che sono come sono, per cui non le prime indagini da fare sono anche fra quelle persone. Dunque non credo che la magistratura dorma e queste cose le hanno pensate anche loro, e sicuramente stanno indagando. Se già ritrovano, vedrai che col tempo già ritrovano, passerà un po' di tempo, ma prima o poi qualcuno vocifera e fa scoprire il discorso del furto. Comunque mi fa piacere che i sardi, o tutta la Sardegna in generale, almeno in quel settore lì, della pastorizia, sono tutti solidari l'uno nell'altro, cioè a favore dell'altro. Sono tutte persone generose che subito danno una mano, come hanno dato una mano ai famosi terremotati dell'anno scorso. Dunque, anche in Sardegna si sono dimostrati abbastanza generosi. Ed è bello questo è molto bello. Non è bello certamente il punto che c'è stato, però è bella la generosità delle persone e delle altre aziende che sono state solidali appunto con questa azienda di questa zona di Sassari. Avanti Franco. Capo, no, per quello non ci possiamo lamentare, come popolo siamo molto solidali. Dai, io adesso mi saluto perché, come dicevo prima, vado a farmi una doccia, che sono tutto impolverato, che ho fatto un po' di fuoristrada oggi, ho fatto un po' di polvere. Vado a darmi una bella rinfrescata, dai, se ho voglia poi riprendo, se no mi riposo un po'. Un abbraccio a tutti, Claudio, Giulio e Gianni, dai, ci vediamo alle prossimine. Riprendi, Cla. Ehi, Afra, dai, d'accordo, no, siamo qua, io non la lasciamo a parte, mi la riaccendo al vero, noi siamo rimasti a casa. Ecco il telefono, e prendi Giulio, secondo, ciao Fra, le prossime. Ok, ciao Fra, buona luce allora, dai, ci sentiamo prossimamente. Avanti Gianni, per salutare Franco. Eia, ciao Fra, ben sentito, dai, alle prossime, come si dice. Ascolta giù, mi approfitto, visto che siamo qua. Cosa pensi della radio Presidente Lincoln? La conosci per caso? Ottima radio, perfetta. Una fra le migliori, ottima radio, veramente. Vabbè, stavo guardando su internet, così, no? In un po' di forum, insomma, giusto anche per spiazzare un po' di informazioni riguardo all'antenna, stavo guardando anche un po' di radio e ho beccato questa radio qua, sia la Lincoln che la Jackson. Insomma, ho visto che ne parlano abbastanza bene, quindi insomma, se ne parlano bene vuol dire che il prodotto è valido. Sicuramente, un'ottima radio, il Presidente è una essere importante, veramente, e soprattutto per la Lingua. Però ce ne sono tante altre, tante altre. Io non lo so, perché la Lingua costa, costano, quelle costano un sacco di soldi, vanno bene, perché vanno molto, ma molto bene. Però io mi orienterei un po' più sul Super Sat. Sai perché, Gianni? Perché vanno benissimo come radio. Esattamente costose come quelle del Vinco, President, è diverso il discorso, anche perché ormai il President del Vinco è una radio che è uscita da un po' di anni, mentre invece il Superstar ci sono gli aggiornamenti, ci sono le ultime versioni che sono favolose, vedi ad esempio come quella che ha comprato un nome così che ti faccio, di Antonello di Ossi, comprato questa radio, costa 164,70 centesimi, una cosa del genere, ma è straordinaria. Intanto va da 1 watt a 30 watt o addirittura 40, se ricordo bene, poi ha diverse bande, ma quello poco interessa, intanto il canale che stiamo usando sono sempre gli soliti, però visto che c'è la possibilità, ed è una bella radio, bella, bella, bella. Una cosa del genere, comunque sì, vedrai che già ti appare subito e non ci sono problemi nel poterla vedere, vanno bene. Poi ci sono le Superstar 2007, 2009, 2009, ecco, anche il 2009 è una delle ultime radio che è stata costruita e va molto ma molto bene, modulazione bella chiara, brillante, prepotente addirittura, tutto bene, bene, bene, con microfono che modula il 95%, a differenza di altri gruppi che modulano solamente al 70% in percentuale, per cui ha tutti i pregi di questo mondo. Il Superstar a me piace moltissimo, la verità. Poi ce ne sono tante altre, c'è la CR5555, anche quello è l'ultima radio, però ripeto, si incomincia a costare un tantino di più. Vai, Gianni. Sì, vabbè, per adesso ti ripeto, la mia è semplice curiosità, non sto progettando niente di particolare. Giustamente mi sto rinfrescando un po' le informazioni, sono più che altro curioso, capito? Ancora non ho nessuna intenzione di fare niente, però giustamente sto curiosando su internet, sto vedendo, ho visto anche un video, una recensione su YouTube di un Intec, adesso non mi ricordo il modello, insomma, AM, FM e SSB, insomma, il tizio a quanto pare, ne parlava abbastanza bene, poi ho visto che nel suo canale faceva le recensioni anche di altre radio, quindi ho passato la mattinata un po' così a vedermi un po' di roba, nient'altro. Ok, già, sì, beh, certo, sì, lo ripeto, però quando compri una radio non te la comprare solamente AM e FM, compratelo che ci sia anche la banda laterale, AM, FM e SSD, perché alle volte andiamo lì, soprattutto in estate, quando c'è da fare i corsi, come si dice, quando c'è propagazione, da fare DX, la SSD è importantissima, per cui è meglio averla. Sì, è vero, costerà magari una ventina di euro in più di quella normale, però ha le bande laterali ed è un barattino più importante, diciamo. Va bene, vediamo se è rientrato, ma sì che ne abbia anche qualcuno, Claudio so che ne sta vendendo, ne ha diverse, ne ha di radio che vuole vendere, tutte nuove, tutte perfette e funzionanti, ma prova a chiedere a lui, così ha titolo di curiosità, almeno sta a dirci qualcosa, se ha qualcosa a lui anche, poi si potrebbe mettere d'accordo anche se non subito ha fatto mettere da parte, magari per darti un po' di tempo, eccetera, eccetera. Si è rientrato qua? Sono al telefono, situazione anche a Claudio o Gianni, e così ci dà qualche dritta anche lui. Però se devi comprare il nuovo, ripeto, non spendere un patrimonio, non ne vale la pena, per il semplice motivo che ci sono radio che costano anche 300-350 euro, mentre invece con la metà dei soldi ti compri un malattino ultimo, veramente ultimo. Va più che bene per la 27 e soprattutto per le persone che siamo noi, che siamo noi qua a Sassari, per il numero delle persone, e poi va bene anche per la propagazione, perché in estate c'è da divertirsi, quando arrivano con le modulazioni da Puglia e con le gare del continente è facile veramente. Avanti Gianni. Sì, giù, non ho progetti particolari, ti ripeto, la mia in questo momento è semplice curiosità, cioè mi sono attaccato a internet, ho guardato un po' di cose, sì adesso infatti volevo, senza nessun tipo di impegno, se Claudio era disponibile, volevo sapere più o meno che tipo di apparati ha, quelli che sta vendendo, vedere un po' di sapere più o meno che cosa c'ha, e poi se eventualmente dovesse presentarsi l'occasione di comprare una radio, insomma, poi vediamo un po', però per adesso diciamo che le priorità sono altre. Comunque non costa niente a chiedere, quindi informarsi è già fa bene, adesso vediamo un po', appena rientra glielo chiedo se ha qualcosa di carino, magari poi in futuro si vedrà, dai, avanti giù. Ok già, beh certo, no, non si paga, per chiedere non si paga tanto, per cui va bene così. Ripeto, tempo fa, non ha molto, è certo che ce l'abbia ancora, e forse ne ha più di una che l'ha messa. Pertanto, tranquillamente a lui cosa può avere a disposizione. Sì, ma è così, Gianni, ripeto, se potrei dire compra una radio che costa certo, se spendi un S9 per esempio, capita e comincia a costare sulle 350, 400 euro, ma che te lo vado a cosa te ne fai? Non te ne fai niente, perché intanto il divertimento che fai con un baracchino da 150 massimo 170 euro o lo fai con se no, è uguale lì, non ti cambia niente. E ripeto, super sat sono le radio che vanno benissimo, non vendo, benissimo veramente. Perché io ce l'ho un super sat e ha una modulazione bella, squillante, proprio prepotente di quelle che si spaccano i timpani quasi quasi. Vanno molto ma molto bene. Senza spendere una cifra esorbitante, tutto questo te lo posso garantire. Poi attualmente col tempo sarà tu a decidere cosa vuoi fare e cosa puoi fare, pertanto va bene così, dai, ti prendi, tanto Claudio già entra quando finisce dal telefono, già entra, non c'è bisogno di chiamarlo, va bene, ti prendi, già. Eia, sì, stavo guardando insomma anche vecchie radio, insomma Fate Midra, Lafayette, altre cose sempre CB, però per anni 80, insomma anni 70, anni 80, sì, ti ripeto, se dovessi prima o poi acquistare un baracchino, non certamente lo prenderei usato, ti ripeto, non ho altre priorità in testa, quindi, però se capita l'occasione buona, cioè l'idea è quella di prendere un baracchino non di ultima generazione, qualcosa di usato, di economicamente conveniente, insomma che faccia caso mio, capito? Poi non ho in questo momento altre intenzioni, capito? Quindi adesso mi sto guardando un attimino intorno, vediamo un po' cosa succede, capito? Ok Gianni, beh sì. e invece prima che fai un giro e controlli il pervenino, quello che puoi prendere o quello che ti piace comprare. La prima cosa, guarda, prima del baracchino, siccome il baracchino ce l'hai, io direi la prima cosa da pensare è l'antenna. O te la costruisci o te la compri, perché tieni presente che l'antenna vale della stazione, di un'intera stazione, l'antenna vale almeno la metà, se non addirittura di più. Perché tutti i trasmettitori, quando uno ha una buona antenna, parlano che è una meraviglia. Per cui anche quella RAI che hai tu adesso, quando lo metti sotto antenna come si deve, stai tranquillo che fa sentire alla grande, veramente alla grande. Questo è fuori discussione. Per cui prima di pensare al baracchino, dal momento che adesso ce l'hai, io penserei all'antenna. Questo è un consiglio che io ti voglio dare, con tutta l'esperienza che ho in questi 47 anni di frequenza che ho, per cui ritengo che sia meglio prima l'antenna e dopo il baracchino, successivamente il baracchino e poi tante altre cose, anche il microfono, tutte queste cose belle che poi si possono prendere e comprare. Avanti Gianni. Sì, certo, chiaramente l'antenna è la parte fondamentale della stazione. Certo è che è molto importante, perché se hai una radio mediocre e una buona antenna riesci a trasmettere e a farti sentire. Se hai una radio buona e non hai una buona antenna non vai da nessuna parte, quindi è chiaro che l'antenna è una parte fondamentale della stazione. Claro che sì, come si dice. Certo, è un discorso abbastanza logico e normale, quindi non, per carità, hai perfettamente ragione. E niente, siccome, ti ripeto, io l'ho modulato per un po' di tempo, metà anni 80, fine anni 80, poi vabbè, ho lasciato perdere, nonostante fossi appassionato, però chiaramente la vita mi ha messo davanti altre cose, quindi ho lasciato perdere, non ho più coltivato la passione. Adesso, insomma, visto che ho trovato questa roba qua, un po' per il tempo che adesso ho, e per altre cose, insomma, mi è ritornata un po' la passione, giusto per quello, capito? Sì, perché è una passione, un hobby bello questo. Dunque sì, magari alle volte è anche costoso, però è costoso quando uno si comincia ad esagerare. Se uno comincia ad esagerare nell'acquistare apparecchiature, cose varie, allora è costoso. Però se uno si limita ad un baracchino, un'antenna, un buon microfono, al limite anche uno, se proprio uno vuole avere qualche watt in più, ammesso che abbia un baracchino di 4-5 watt solamente, c'è sempre un 747, un lineamento sensorizzato che va molto ma molto bene, e quello ce n'è anche 80, alimentato con 4 watt, 5 watt, ti dà 80 watt di potenza. Però, ripeto, non serve. Io ce l'ho avuto qualche volta, poi il fulmine me l'ha bruciato un paio di anni fa, e da allora non ne ho più avuto, no, e non mi interessa nemmeno averlo, il legnale, per una questione di antenna, perché so che spara bene questa, va bene questa. Quest'estate ho fatto, nonostante l'antenna è montata in un posto un po' critico rispetto a dove avevo prima l'antenna turbo, Mantova Turbo, che poi tra l'altro ce l'ho sempre, però ce l'ho montata e per terra, e poi io ho strada sdraiato per terra il coso, era l'ultimo piano in mazzata, nel poi giorno della mazzata, e non l'ho montato, lo stile centrale non l'ho smontato, il radiatore non l'ho smontato, e tutto il resto è montato, però quello non l'ho montato, perché poi abbiamo costruito questa antenna che sono usando adesso, ho visto che funzionava bene, ho fatto anche, quest'estate passata ho fatto anche corsi di ex, ho fatto e si sentivano bene, per cui ho pensato, ma che me lo posso fare a cercare un'altra antenna che non mi dava anche fastidio quando c'era molto vento la notte, che si chiama preso il diario, mi sentivo alle 2 del 3 di notte, sentivo questo fischio continuo. Allora è per quello che non ho più rimontato. Però, ripeto, questa è adesso, che sto usando adesso, questo dipolo così verticale, è un sottoscritto, lo sposterò e lo metterò al posto della, dove c'è la prima 99 turbo, che era molto ma molto più in alto di dove adesso, quindi praticamente in campo aperto, per così dire, anche perché questa antenna in questo momento è tra le mura del, del terrazzo, e dunque il segnale è un po' più basso rispetto a, all'antenna che avevo prima, dunque portando a dover migliorare ancora molto, ma ripeto, va bene ancora, va bene così lo stesso, non c'è problema. Veia, vediamo se Claudio si è liberato. Claudio? No, no, sono al telefono, aspetta. K? Ok. Sì, sì, capito Giulio. Mi sto immaginando una cosa, sì, effettivamente, quando una cosa va bene, insomma, meglio lasciare le cose così come sono. Aspetta, mi è venuto in mente il nome di un'altra radio che ho visto stamattina, però adesso il nome mi sfugge, la marca più che altro. Vabbè, appena me la ricordo già te lo dico. No, non è un Midland, non mi viene la marca. Comunque, vabbè, sì, ti ripeto, adesso sono solamente curioso. Vediamo un po' cosa succede. Sì, mi interessava una radio che avesse almeno la banda laterale, capito? Quindi, e poi, come si dice, poca spesa, molta resa, capito? Sì, con la banda laterale bisogna comprarlo la radio, non, anche se noi qui in città usiamo sempre la M, però a volte ci possiamo anche in FM, ci possiamo anche in banda laterale, ma ripeto, questo si fa in estate quando c'è la propagazione, perché la propagazione, cioè il canale 27555 di frequenza che corrisponde al canale 52, che corrisponde, cioè oltre i 40 al 12 canale, no? Corrisponde a quello lì, il canale monitor del nazionale, dove tu trovi tutto il concentramento dei CB dell'Italia intera e anche delle altre nazioni, dell'Europa intera. E per cui con la banda laterale hai più occasione, più possibilità di fare anche meglio di ieri. Mi sono spiegato già, ed è per questo che ti ho detto poc'anzi di prendere una radio che abbia le bande laterali, oltre al fatto che, ripeto ancora una volta, l'antenna in primo luogo, l'antenna. Sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro. Sì, stavo guardando anche questa cosa del canale, comune, dai, dove si fanno i DX. Stavo leggendo anche un po' su quello e anche ho visto c'era un glossario, praticamente un indice con tutte le varie terminologie, insomma, ho scaricato da internet un po' di informazioni giusto per rinfrescare la memoria, visto che adesso sono da un po' che certe cose non le facevo, quindi rinfrescare la memoria già va bene, avanti Gio. Certo Gianni. Sì, no, ho premesso che la propagazione ci sarà in tutti i canali, non è che non ci sono, anche i canali sotto, sempre quello, ci sarà propagazione anche nei canali sotto. E, ripeto, cioè intendo sotto l'1, anziché essere in 27 siamo magari in 26, perché incomincia già il canale 1 e 26, 975. Il canale 1, poi il canale 2, 75, 85 e così via, andando avanti. Però, ripeto, alle volte anche nei canali bassi ci sono della propagazione. Devo dire che nei canali bassi si fanno anche dei bei DX, nel senso che magari si punta anche alle volte dal QRM, eccetera. Quello che ti stavo dicendo io è un malattino che ha i canali bassi e anche i canali alti, come quello che ti stavo dicendo. facendo canale monitor nazionale, che è il 27555, corrispondente al canale 52. Sì, e pertanto è quello da acquistare, senza usare un patrimonio di soldi per comprare un baracchino. Ripeto, il presidente Lincoln è un grande baracchino, veramente. Poi abbiamo il Garrett, che è un grande baracchino, indubbiamente, però abbiamo l'Inter, che va benissimo, il Milan lo stesso, la Fayetti altrettanto, ce ne sono tanti di baracchini che vanno bene, però ripeto, il Superstar è un baracchino accessibile a chiunque, ecco cosa intendo dire. Vai Gianni. Eia, sì, no, ho capito perfettamente. Sì, per quello non ci sono, tra virgolette, non ci sono problemi. Stavo pensando, ascolta, rinfrescami la memoria. Il canale riservato alla Paranautica, qual era? Il canale 1, se non sbaglio? Sì, negli anni passati si usava il canale 1 per comunicare appunto con tutti i naviganti in genere, sì, e soprattutto con i pescatori e allora, però adesso ormai il canale 1 non è più frequentato dalla Paranautica, forse perché magari o usano il telefonino o perlomeno usano la radio di bordo, che hanno loro sicuramente, che ha altre frequenze, che dovrebbe essere il 165, mi sembra, se ricordo bene, la frequenza 165, se ricordo bene. Comunque, quello è un altro tipo di radio e non c'entra niente con la 26. Prima sì, usavano molto il baracchino, però anche loro ormai hanno abbandonato il baracchino e utilizzano altre radio. Avanti già. Eia, sì, adesso vabbè, mentre ti stavo parlando mi è venuta in mente questa cosa del canale riservato. Mi è saltata la mente il canale 1, vabbè, il canale 9 già lo conosciamo, cosa serve? E niente, tutto qua per il momento. Adesso appena stacco riprendo a cercare qualcos'altro, vediamo un po' cosa salta fuori. Vado a leggermi le recensioni, capito, le critiche, le considerazioni pro e contro degli apparecchi, per vedere cosa dice la gente, giusto per avere informazioni in più, capito? Sì, tu puoi aprire per informarti molto sul mondo radioamatoriale e civistico. Tu scrivi sul computer Roger K e vedrai che lì si aprono i forum, si aprono, se vuoi ti puoi iscrivere, puoi chiedere anche a loro ti rispondono, eccetera eccetera. Tu scrivi Roger K si apre un forum, si apre dove ci sono tante notizie e tante cose che possono essere utili per almeno per rinfrescare la memoria, eccetera eccetera, e non solo, anche per informazioni, anche per piccole riparazioni, anche informandosi per l'antenna, per tante cose. Insomma, chiaramente c'è quello che ti dice una cosa, poi c'è quell'altro che te la dice magari diversa, come è nella vita normale, no? È normalissimo, ognuno ha le sue idee, le sue impressioni, e pertanto ognuno di lui parla secondo le sue idee, è normalissimo. Però ti voglio dire, è importante anche questo, capire, vedere, tante cose ci sono da vedere. Poi puoi scrivere e tante altre cose, puoi scrivere, tipo che so io, a riguardo delle antenne, ad esempio, puoi scrivere antenne Sirio, per dire, no? Oppure che so io, antenne Game Master, così, tutte queste cose così, e vedrai e ti informi bene, in rete c'è di tutto e di più, e ognuno poi ti informa, poi scrivi quello che vuoi, tu fai una domanda qualsiasi. qualsiasi, in rete, la rete ti risponde sempre, poi già lo sai meglio di me, io non è che lo so usare molto il computer, però diciamo per quello che mi interessa, per quello che devo vedere io, oh, mi va bene sapere quello che so, di più non mi interessa, figurati già, nel primo. Eia, sì, sono entrato nel forum che mi hai detto, Roger K. E poi ne ho beccato un altro, Radio Amatori ACP, ne ho visto due o tre, sì, ci sono entrato, ho letto un po' di post riguardo sia le antenne autocostruite e anche le recensioni e i pareri sul President e su altre radio, sì, sono già entrato. No, ho visto insomma che c'è movimento, interessante, molto interessante. E poi anche c'è qualche video carino su YouTube, insomma, di gente che fa test, prove, roba del genere. Quindi c'è ancora un po' di movimento per i CB, dai, non è così del tutto morto il mondo dei CB, dai. Eccomi, scusate, ma stavo parlando con Montecitorio. Con Mattarella stavi parlando. No, con l'aiutante. No, l'aiutante stavo parlando. Mamma mia, come sto? No, un collega era, vabbè, io quando mi chiamano i colleghi stiamo sempre a raccontare affari. Di cosa stavate favellando? Stiamo parlando un po', cioè sto dando qualche dritta come informarsi ad esempio al computer per capire, vedere, o meglio riprestarsi la mia moglie, perché anche lui era CB tanti anni fa, però adesso si era allontanato e pertanto le manca un pochino di informazione, più che altro non mi manca, ma le stavo dando qualche dritta soprattutto riguardo i baracchini eccetera, perché lui quando sarà possibile si comprerà un baracchino, si comprerà, e gli stavo dando delle informazioni riguardo ad esempio delle superstar o di altri baracchini eccetera, che lui mi ha chiesto informazioni sul presidente Lincoln, che gli ho detto è un ultimo baracchino, però è costoso e dunque è meglio ritirare su baracchini più moderni, anche perché quelli ormai si cominciano ad essere anche un po' datati, e pertanto non è il caso secondo me di andare a spendere magari 300 euro o anche di più per comprare un Lincoln, quando puoi spendere la metà dei soldi comprandoti un superstar che sono baracchini ultimi con un modulatore abbastanza chiara, squillante e anche più potente, tutto lì. Poi Gianni, c'è anche qualche sito, tanti negozi ci sono in Italia che vendono anche gli usati, però gli usati li vendono anche privati, ma dai privati non comprare niente, per carità. Se compri dai negozi, dai veri negozi, dagli usati, perché gli usati magari ti mandano dalla modesta, invece i negozianti le radio prima di venderle, perché loro le danno dicendo in tributo, no? Prima di venderle li provano anche, perché è sempre una ditta, è un'azienda che non si può permettere di fare brutte figure con un cliente. Avanti Gianni. Eia, sì, adesso rilanciamo Claudio, visto che è rientrato. Allora qua, a titolo solo informativo, senza nessun tipo di impegno, sempre se ti è possibile e ne hai voglia, anche su WhatsApp, se potevi mandarmi un messaggio con gli apparati che stai vendendo, cioè gli apparati che hai messo in vendita, col nome loro, insomma, con nome e sigla, sempre a livello informativo, se ti è possibile, così inizio a curiosare un po' di più e a farmi un'idea. Non, ti ripeto, in questo momento non ho la possibilità di fare nessun acquisto, però come stavo dicendo a Giulio, appena mi sarà possibile, voglio comprarmi qualcosa di meglio rispetto a questo, quindi se è possibile, se riesci a mandarmi l'elenco delle cose che hai tu, così vediamo un po' cosa, insomma, giusto per informazione, capito? Sì, sto guardando, perché sono adesso tutti dentro la scatola, sono tutti faccio la foto, sto guardando l'ultima foto che ho fatto, che l'ho mandata a Massimiliano per mettere su, eccola qua, sì, dovrebbe essere questa, te la mando, queste sono le radio che in linea di massima sto dando, perché non me ne faccio niente, ok, che non me ne faccio niente, poi in via vocale tu mi fai le domande. Lì c'è un Ranger, un Superstar e un Venus, e poi ci sono tre strumenti, ok, tremando tutte e quattro, sono le radio, tutte e quattro, e poi tu mi dici su più o meno cosa sei orientato e con qualche vocale mi chiedi i prezzi, ok? Mandali anche a me, dai. Cosa ne vai? Dove è un negozio? Ancora un negozio. Manda anche a me, manda, cosa negozio. Ciao a te. Io non si basta mai, no, io baracchini no, basta, baracchini, una giornata, sono tutti belli e funzionanti, però basta riuscire, no, non è battuto, la dici blocca vita, stavo curata la guacoma che non ha accorto più. Ciao a te, sono io Giulio e Gianni, riprende e fai girare, ti mando la foto, dai. Buonasera. Sono appena entrato e quindi non so neanche di cosa stavate chiacchierando. Vai Giulio, buonasera. Ciao Tino, ben entrato. È sempre un piacere di ascoltarti. No, salviamo Charami Delli, che sarebbe? Charamidando di Baracchini. No, perché c'è Gianni che è intenzionato col tempo ad acquistare un baracchino più serio, in quanto adesso ne ha uno che sono 23 canali, normalissimo, con la M, nemmeno FM mi sembra che ha, e per cui adesso lui si è riaffacciato in frequenza, perché tanti anni fa era già in frequenza, però aveva poi interrotto e adesso si è riaffacciato, ma io le stavo già intanto considerando per prima cosa di pensare all'antenna, perché poi il baracchino arriva successivamente, fa la cosa più importante o perlomeno parità della stazione, è sempre l'antenna. Avanti Tino, mi prende e fai girare per Gianni dopo. Hai ragione Giulio, hai ragione, vabbè, poi c'è chi la pensa al contrario, c'è chi la pensa al contrario, che dice beh, prima la radio e poi per l'antenna passa anche un filo, come tu sai, però ognuno è libero di scegliere cosa prendere. Vai avanti Gianni. Capa, buonasera, ben sentito Tino, l'altro non so, forse era Massimiliano, buonasera anche a te. Sì, l'argomento era quello, capito, cioè era appena si presenterà l'occasione, volevo prendere un baracchino insomma un po' più performante rispetto a quello che ho, e niente, era in questo momento mi sto giusto guardando intorno, adesso poi Claudio chiaramente mi ha fatto presente che ha qualcosa, quindi la cosa più logica da fare in questi casi è informarsi e vedere quello che ti sta più vicino, quindi adesso mi sta mandando alcune informazioni su quello che ha, quindi per il momento mi sto solo guardando intorno, poi chiaramente i consigli sono tutti ben accetti, le pretese sono proporzionali alle possibilità chiaramente, però per il momento mi sto solamente guardando intorno, poi se avete suggerimenti da fare ben accetti. Avanti ti. Certo. Ma tu cos'hai ora? Lo stai usando? Un 48? No, c'ho un Asahi, roba giapponese anni 70, è un 40 canali quartato. L'ho smontato da un vecchio camper che era fermo. E niente, l'ho spolverato, l'ho attaccato e ho visto che va. sì, va bene. Vabbè, poi se vai un po' più sul seriotto, giustamente, se hai gente vicino che non vuoi splattere contatto, ha ragione anche Giulio a prendersi una radio un pochino più seria. Va bene, Claudio va. Gappa, infatti. Vabbè, già ci sono anche baracchini che non prendono colpi. Io ho Superstar 3000 secolo, Focarino cromato, c'è il, anche il, come si chiama, l'Airbex, l'altro, il Ranger, lo stesso, non lo prendono quello, non lo per dire, sento tratto nel fruscio, ma noi lo siamo molto attaccati, poi lui è proprio vicino, lo sento leggero leggero, però altri non assolutamente, già ce n'è baracchini buoni, però dipende sempre dalla disponibilità. È chiaro che una razza di queste sarebbe per te ideale, avendo una botta di severe, che vale un bel 140 in ordine a 250 euro, come è già capitato, perché io, mi è capitato uno, l'ho fatto prendere subito, immediatamente a uno che conosciamo, però non è qua a Sassari, che ogni tanto si fa sentire, capito? Però bisogna avere fortuna, e lì allora si è arrivato a un bel microfono così e tu non hai più problemi, hai potenza, hai radio, hai, ti puoi divertire, baracchini sono baracchini. Vabbè, io te li ho mandati comunque, quelli sono quelli disponibili, ne ho altre tre ma non li do perché sono tre Colt, come l'87, il Typhoon 2 e l'altro, l'801, quelli non si toccano, quelli li tengo perché sono tutte e tre Colt, costano una barca di soldi e svenderli non mi interessa, li tengo ma quando ne ho voglia li accendo, li uso e li rimetto a posto, però quelli che sono proprio da far fuori sono quelli che ti ho mandato la foto. Avanti Giulio. Ok, e infatti lo stavo dicendo, avevo consigliato di chiedere a te che tu, perché sapevo che tu avevi qualcosa che tu volevi dare via, avete considerato che ne hai anche truppi, tra virgolette, chiaramente, perché è ovvio, non sono stati certamente trovati così per operare dello Spirito Santo, ci sono voluti soldi per comprarli anche qui, certo. Vabbè, dai, piano piano, però le stavo consigliando per prima cosa, io questa è la mia opinione, di pensare innanzitutto all'antenna, prima di tutto, perché l'antenna va deve stare nella stazione, non ci sono dubbi. E poi successivamente ad un buon baracchino anche con le bande laterali, in modo che possa anche utilizzarle in caso di propagazione, c'è da divertirsi quando c'è la cosa, la propagazione, così a fare contatti con il resto dell'Italia e anche dell'Europa. Stavo pensando a quello, o Claudio. Va bene, dopo mi dirai se sei anche tu o della stessa idea oppure no. Adesso faccio girare il tortino. Vai Tino. Va bene, ecco, questo è l'altro. Claudio, quello argentato cos'è? Quello Superstar 3006, ma radio è eccezionale, nuova. Eccezionale vuol dire molto, perché se lo dico vuol dire così. Lì si può, ho già provati da me, mi pare c'era anche Giulio che mi ha detto non toccare niente, lasciala perché si assomiglia al K. Lì ho provato il Tanner più 3, l'MB più 4, l'MB più 5 da favola. È una radio che va intorno ai 15 watt, non so perché, io l'avevo comprata così, non l'ho mai toccata, mai scacciavettata né niente, e ha sempre funzionato bene, ripeto, usata pochissimo, è un Superstar 3006, con le bande laterali, 120 canali, boh, o di più, non mi ricordo, A, B, C, D, e poi sei bande. Dai, ci mettiamo d'accordo e te la prendo io. L'altra cos'è invece quella nera? Quella è un Ranger, quella è tutta digitale. Cioè, devo dire tutta digitale, visto quanti tasti c'ha? Quella si illumina tutta in arancione, tutta digitale. Tutta digitale. Con quella c'è il microfono normale perché purtroppo c'ha il microfono originale con down e up perché ha 5 punte. E io non l'ho mai sostituita, la modulazione è normale, bella, ordinata, va bene. ricezione, trasmissione, tutti i comandi dal microfono, che è una radio per macchina, avevo preso per mettermi la macchina con una montata, fatto vedere il corrente la scatola. C'è il frontalino estraibile, cioè capito, l'unità si conserva, tu appendi solo il microfono che avete quanto grande, tutta l'unità comanda tutta la, esce molto bene anche le radio. C'ha 5 watt, quella attaccata, provata e attaccata, vedete dentro la scatola. Ma qual è quella che c'è, la seconda che mi ha mandato? La cosa aspetta? Ah no, quello è l'Elbex, quello lì è un altro, no, una e l'altra, è da vedere, dai. Va bene, va bene. Vedi un po' se riesci a vendermi anche, vedi, per chi vuole un barattino in macchina senza rottura di scatole, da nascondere l'unità piccolina, l'unità è un po' più grande di un pacchetto di sigarette. È molto bella quella radio, tutto il microfono, non so se conosci quei microfoni che usiamo noi radio amatori, mi piace anche a Walter con tutti i comandi dal microfono, fa la Icon, l'ho fatto anche la Kenwood, eccetera, tutto di colore verde, è comandato tutto dal microfono, è eccezionale, per chi lo vuole mettere in macchina, non hai niente in mezzo ai piedi, è solo questo microfono, con tutti i comandi e tutte le... tutto completo, veramente molto bello anche quello, Zeus, Venus, adesso non mi ricordo, è dentro la scatola comunque, va bene, ok, riprendi e fai girare. D'accordo, ti ho mandato quel microfono che stai dicendo tu, sei quello. Va bene, no, poi me lo fai vedere anche lui, quello qualche tessione. Va bene Giulio, riprenditela, e ormai ci è venuta questa mania nuovamente di riattivare il radio, grazie a Dio, insomma, qualcun altro sta sempre entrando per muovere un pochino la 27. Entra tu, Giulio, stai a girare, dai. Ok, sì, perché... Dai, ho sentito, oh Gianni, io ti ho parlato poc'anzi del Superstar, sentita cosa ha detto Claudio, sei attento, anche lui ti ha parlato molto bene del Superstar. Perciò se vedi un po', se no Mettino è già pronto, se lo vorrebbe lui. Dunque, ripeto, Superstar a me piace, la verità piace, mi piace soprattutto la radio e soprattutto la potenza della radio, perché modula il suo microfono, cioè la radio modula il 95%, modula addirittura, a differenza di altri baracchini che modula solo il 70%. Io parlo del microfono suo originale, vabbè, poi uno può applicare anche uno un microfono preamplificato, allora è proprio il massimo veramente sul Superstar. Io ce l'ho il Superstar, quando metto il Sadelta oppure l'MD4 è una bomba, è una bomba veramente, di lusso alla grande. Va bene, ripeti Gianni. Eia, sì, io stavo, grazie Cla, stavo guardando le fotografie che mi ha mandato Claudio, sì, ho visto che oltre agli apparati, ai baracchini ci sono anche gli strumenti. Visto che... Claudio, sull'Airbex invece cosa mi dici? Se hai qualche informazione in più? Poi facciamo entrare che c'è il back di Gianni, avanti Gianni. Buonasera, sì, là, è proprio il nostro discorso, buonasera. Oggi è domenica, sono potuto entrare, alle 3 giorni sono al lavoro, quindi è difficile entrare. L'Airbex è un apparecchio che non prende spazio per me, è un bel apparecchio. Ti ha già risposto Gianni, il doppio rumore, io sempre che lo tengo quello, perché quando voglio fare una chiacchierata col baracchino so che non me lo rompere scatole nessuno, purtroppo sono molto in alto e ho vicini che si possono spostare, non spostare, sai, noi di solito parliamo su 10, però è chiaro che ognuno magari si sposta a fare una chiacchierata con altri eccetera e a me dà fastidio. Se tu immaginati che l'ara 48, qua c'è Gianni Doppioluma che c'ha una bestia come la mia, di ala 48 modificata, appaiata a una barca di soldi come il mio, perché arriva praticamente dalla stessa persona, Io lo accendo e per me questa radio è come che sia spenta, perché se c'è uno in un altro canale la radio non si sente manco il QRM, niente, battimento zero. Attacco l'airbag completamente, il 3006 la stessa cosa, il Ranger la stessa cosa, baracchini di altro, il Typhoon 2 uguale, preciso, cioè baracchini, l'Ala 48 in città non si può usare, è una radio nata per la macchina, non c'è niente da fare. L'airbag è eccezionale, come dice trasmettitore eccezionale, altrimenti non l'avrei neanche tenuto e l'avrei messo in vendita lo stesso, però quello te l'ho fatto vedere ma non lo vendo l'airbag, perché l'ho proprio ritirato i coperchi venerdì da un amico che me li ha completamente rifatti a nuovo, suo colore originale, nero opaco, ed è sempre uscendo dalla casa perché non c'erano dei graffi e a me mi dà fastidio. Tutto qua. Riprendi lo profeta e poi fai girare il capo. Eia, ok, grazie del chiarimento. Buonasera, doppio room, ben sentito. Sì, vabbè. Adesso ho visto la terza foto, ho visto che hai parlato dei primi due e non hai parlato del terzo, quindi ho detto va, vediamo di chiedere qualche informazione in più. Quindi, riepilogando, il Superstar mi ha detto che ha 15 watt, il Roger mi ha detto che ne ha 5, se non ho capito male. Mi fai questo chiarimento e poi facciamo girare. Sono, guarda, tranne i tre modificati, il Typhoon 2, l'87 e l'801, quelli sono modificati, vabbè l'ANA 48 lo stesso, ne ho 4 modificati, non si toccano. Il Ranger, il 3006 e il... cosa ti ho detto? Sono tutti oltre i 10 watt, tutti oltre i 10 watt, così, li ho comprati così, non penso li abbiamo toccati, comunque sono tutti sul parlato oltre i 10 watt. KK, va bene? Ok, grazie. Sì, va bene, va bene. Per adesso va bene così. Ok, facciamo girare. Avanti, doppio room. Kappa, cosa ti stai facendo? Una cultura per farmi la stazione. No, per adesso mi sto solamente guardando intorno. Mi piacerebbe, uso il condizionale, mi piacerebbe al momento opportuno cambiare radio, perché questa ha dei limiti e quindi stavo pensando di appena mi sarà possibile di prendere qualcosa di più performante, capito? Ma sempre baracchino per il momento, però insomma con un buon rapporto qualità-prezzo. Niente di più e niente di meno. Adesso è giusto a livello informativo, nient'altro. Quindi per il momento va bene così. Quindi ho detto, se avete consigli da dare sono tutti ben accetti. Avanti, giù. Giù, ti faccio la premessa, te lo dico col cuore. Sei sfortunato che gli altri tre che ho sono tutti e tre modificati, ok, altrimenti uno te l'avrei regalato col cuore, credimi. Vai Giulio. Ok, sì, beh certo. Sì, ma è così. Ciao Gianni, doppio lui intanto. Sì, no, ma anche il Typhoon è un ultimo palizio, eh. Il Typhoon è pari al Garage 2, pari al Prusso, altri simili, dunque un ultimo apparecchio anche quello. Poi al riguardo dei watt, si sa, Gianni e Lubrefetta partono tutti quanti con i soliti 4,5, 5 watt, 4 watt più o meno, poi magari dentro c'è la LC che uno lo modifica appena appena, una giratina e ce l'ha 15 watt, addirittura c'è un po' la 18 il 3006 del Superstar. E anche il Typhoon si tratta solamente di regolare appena un trimmer che c'è dentro e si va già più basso. Evidentemente quello Superstar è stato già toccato nel senso che è stato già regolato per avere qualche watt in più, ripeto, e non fai danno, sia ben chiaro, non è un danno nella maniera più assoluta, è solamente che la radio ne darebbe, solo che siccome sono baracchini e CB e allora non vogliono venderli con già regolati a quella potenza lì, bensì devono essere anche salvate massimo, ecco qual è il discorso. Tanto per essere chiari, ho Gianni Lubrefetta. Bene, bene, facciamo girare per Tino. Vai Tino. Bene, ciao. Ciao Gianni, innanzitutto doppio room. E niente, volevo precisare, non è che non si può utilizzare il 48, per carità, io ce l'ho adesso, ma lo utilizzo in una zona fuori Sassari, adesso al momento sto utilizzando quello, lo profetto. E ha ragione Claudio che in città è difficoltoso ascoltarsi uno con l'altro, cioè se c'è l'afflusso di gente che magari con qualche canale di pochi di distanza ti abbatte il segnale, però come radio ha ragione, è meglio utilizzarla in macchina anche perché prende meno splatter. Comunque come radio esce abbastanza bene, capito? Ma sì, dai, prenditi una radio un pochino più sorda, in maniera tale che se ci vuoi fare una stazione un pochino più performante, almeno puoi ascoltare anche le piccole modulazioni. Ma riprendi, profeta. Kappa, ok. Sì, vabbè, per la 48 più o meno determinate caratteristiche le conosco, la differenza che c'è tra la nuova versione e la vecchia, insomma, pregi e difetti, un po' di cose le conosco, però per il momento, visto che è considerato che Claudio c'ha questo materiale, insomma, guardiamoci qua vicino e vediamo un po' cosa succede. Sì, vi ripeto, l'idea è quella, appena ho la possibilità, insomma, voglio fare un passo in più, quindi niente di più e niente di meno, tutto qua, è semplice, è una cosa logica, questo qua è, con tutto il rispetto, è abbastanza limitato, quindi appena possibilità voglio avere qualcosa in più, giusto per quello. Va bene così, ok, dai, avanti qua. Aspetta doppio room, vai già. Sì, va, piano piano si fa il passo, già nel corpetto. Piano si fa, ciao Danilo, ciao anche la giurata. E si fa piano piano il passo, dai, quando hai la possibilità si fa. Poi piano piano si aumenta sempre. Qua è una questione di... L'ho provato sulla mia pelle, non ho speso abbastanza di sì, ma è una passione che praticamente ti appaga, se c'è gente ti appaga, perlomeno a chi è appassionato di così. Io quindi a me mi manca perché adesso sto facendo il tuo lavoro uguale a notte, quindi non posso entrare e poi ci sente quello da lì. Immaginare, io non posso parlare se non la domenica, quando non la mangio, perché a volte lavoro anche la domenica. Vabbè, c'è entrato l'altro giorno, siamo le mattiottino, chi c'era? Mattiottino e Marco, sino a 9 metri, alle 10, quindi... No, premesso che veramente, cioè guarda, io ci ho comprato da Gigi, anche Gianni, Colt, tutte le modifiche, c'è cioè addirittura un tattino proprio per diminuire il sistema di splatter, di battimento, ma hanno venuto a lavare, ho trovato in tutte le maniere, non c'è Cristo, assolutamente. Ottima radio. Sì, io ho il iPhone 2, Giulio, iPhone 2, modificato Colt, quindi le potenze di quello dell'87 e del Typhoon 2 sono 30 watt, sino a 30 watt, ma perché sono modificati da chi ha fatto il lavoro, capito? Non da me. Mentre il 3006 e il Ranger, quelli sicuramente li hanno leggermente tirati, ma io li avevo comprati in fiera, immaginate tu, nuovo nuovo dentro la scatola. Va bene, via, soldi, caro Ubrofetta, soldi, se andiamo a contare tutto quello che è entrato e uscito in questa stanza, forse me è uscito un altro appartamento, io ho regalato, ma dico regalato col cuore, per carità, Radio Vintage Base e Decametric, la fine del mondo, ce li ha Roberto Quadrato, potete dirlo, una parte l'ho data a lui, di radio un po' più serie come il Sommercal, il 101 digital, appunto decametrico, altre radio, anche Kevod decametrico, radio interessanti, molto belle, anche radio americana, mentre altre radio, l'ultima che l'ho data a Gianni Capridu, l'ho data a Lineary Craft americana, HF decametrica, e poi tutte quelle che avevo basi vintage degli anni 60 e 70, e tutte a lui, qualcuna funzionava, qualcuna era da controllare, qualcuna non funzionava, si è portato via tutte, ne avevo una decina, avevo la casa piena di baracchini dell'epoca che furono, nella fine ho portato anche la base che ha fatto Giulio, però l'ho già portata via, ne ho una sola, per dire che la passione è tanta e c'era la voglia veramente di avere tante cose che poi non usavi e si rovinò, quindi ho fatto tantissime, e questa è l'ultima cosa che ho fatto ultimamente, mia moglie ha detto inizia a svoltarti i tuoi armadi, perché ne ho due, uno qua in stanza e uno nel corridoio che è pieno lo stesso di roba di radio, perché a volte opportuno non devo stare 3 giorni appresso a te con queste cose, quindi meglio tutti sistemati, puliti, riordinati, messi dentro le scatole, qualcosa va via, qualcosa rimane, tutto qua. Vai, Giulio, riprendi tu. Ok, sì, ma è così, in effetti è così. Typhoon 2 è quello con la versione con 271 canali, che non è altro che praticamente il Galaxy Turbo, no Turbo, il Galaxy Saturnecco, all'infuori della carcassa, cioè del mobile, però tutto quello che c'è all'interno, come modulo elettronico, a parte gli strumenti, eccetera, sì, questo sì, d'accordo. Però intanto gli stessi canali del Galaxy Saturnecco, primo, e poi ha lo stesso modulo, uguale, identico, con gli stessi componenti, eccetera, eccetera. Ripeto, il Galaxy naturalmente ha i due strumenti, ha un mobile grandissimo, tutto quello che vuoi, però come modulo di modulazione è uguale, identico al Saturno, al Saturnecco. Sto parlando del Typhoon 2. Bene, avanti Tino. Bene, allora no, mi sto guardando qualche cosa al PC, perché ogni tanto c'è qualcuno che sta prendendo sempre qualche radio, ma grazie a Radio Faro HF, quindi insomma sono sempre alte come prezzi, però le radio se lo meritano tutto quel prezzo lì, perché sono anche recenti. È la passione quando c'è, come ha detto Gianni, manca quando purtroppo non la si può usare, hai la Ferrari ma non è la benzina, quindi è così, Gianni, è vero? Sempre, ma io approfitto sempre del ritardo di antenne, la sera purtroppo rientro verso le 10:15, così, ma anche con possibilità è già finita la serata. Purtroppo non l'ho realizzato, perché me lo dà, la faccio con un pugno, questo là, la mai, hanno capito che pescheria ci so fare, via, e mi danno, mi hanno dato la pescheria, e vabbè, la scienza. Vabbè, però. No, oh, vabbè, l'altra volta eravamo fino a tardi con Claudio, addirittura io ho mangiato un pochino tardi e avevo lo squelce inserito, ogni tanto sentivo, parlo, ho detto, ancora la radio, forse faccio in tempo, invece poi diciamo che mi sono trattenuto un pochino di più e stavano chiudendo, ho detto, vabbè, stanno chiudendo, lasciamo stare. Sì, infatti stasera avevo anche appuntamento con Franco Di Sorcio, io qua, evidentemente non è tutto il Franco, perché ci siamo sentiti verso mezzogiorno e mezzo stamattina, eravamo rimasti d'accordo che si sarebbe fatto sentire, che non aveva intenzione di uscire, per cui adesso non so, si vede che ha cambiato idea, perché sennò sarebbe entrato. Anzi, faccio 5 secondi di bianco, così vediamo se che lo chiamo, vediamo se c'è un ascolto. Franco Di Sorcio, ci sei? Beh, per giunta oggi è anche il suo compleanno, quindi ci deve pagare anche a me. Pure, allora, no, non credo che si chiama ascolto per quello, Tino. Sto scherzando. avanti Gianni. Sì, sì, scusate che mi sono un po' distratto. Sì, già, ma lo so, ce l'hai già detto che appunto stai facendo i turni e che quindi è così. E anch'io la sera quando rientravo a volte c'era, a volte non c'era, soprattutto il periodo estivo, perché era talmente pesante la giornata e a volte arrivavo alle 5, 6, doccia, mi sedevo e mi dormivo di divano, perché mi accavo alle 4 e mezza, avevo già gli occhi spalancati, alle 5 e mezza stavo uscendo, quindi è un casino, quando uno lavora, priorità lavoro, quando c'è il tempo per potersi fare due chiacchiere si fanno, se no pazienza. Io oggi, sì, siamo andati stamattina, mi hanno transato di più, ma sono rientrato verso le 5, se no magari sarei rimasto ancora in campagna, però non mi avevo voglia perché tutta la settimana sto tirando, adesso anche domani ci abbiamo dei lavori da fare, abbiamo messo tutti i paletti qua nel condominio, paletti nuovi, vogliono sostituire per la recinzione vecchia e quindi ce l'ho a fare anche domani mattina. Vabbè, ti ho mandato un messaggio, vedi tu e valuta tu, non ci sono problemi. Avanti Rubrofetta. Ehi AK, adesso domanda così, scheda diretta, se a Claudio, domanda per Claudio, se mi dovessi consigliare una radio tra il Superstar e il Ranger, quale mi consiglieresti? Esteticamente il Ranger, come vice trasmettitore il Superstar al 100%. Ok, no vabbè, a livello generale, non solo a livello estetico, quindi il tuo consiglio sarebbe il Superstar. Sì, sì, alla grande, io li ho provati tutti e due, esteticamente il Ranger è bellissimo perché è completamente tutto digitale, ok, tutto digitale, e poi fa tutto con i tasti, non ne ha di potenziometri, tutti i menu eccetera eccetera, quindi potrebbe essere una cosa anche difficoltosa, mentre il Superstar è molto più semplice, ma esteticamente è più bruttino in gergo così del Ranger, però come vice trasmettitore è molto superiore, l'ho provato ed è favoloso veramente, ha una ricezione, una trasmissione favolosa. Ho provato con tre microfoni diversi, abbiamo fatto la prova con Giulia, ti ricordi che mi hai fatto regolare MB+5, ma una modulazione così bella, una ricezione così bella, proprio molto, ma si sa, io ho avuto il 3006, ho avuto il 3009, ho avuto il Superstar 7000 DX, che c'è Mario e Babbo Natale che non glielo prendi manco se le dai 1000 euro, bellissimo, da 50 watt, 50 watt da 0 a 50 watt regolabile, 6 bande, bellissimo, quindi diciamo che li ho avuti quasi tutti quella razza lì, quindi ti consiglio quello insomma. Ok, va bene, un'informazione in più. Ok, dai, avanti Tino. Ah, Tino si è sganciato. Vabbè, riprendiamo, va avanti giù. Ok. E dunque praticamente anche Claudio ti ha dato lo stesso consiglio che ti ho dato io. Sì, ma i Superstar sono voi tutti, 3009, 3006, il 370 FM, il 6009, anche l'Aniton, anche quello è praticamente lo stesso Superstar, però ha un'altra marca, ma è lo stesso apparato, vanno tutti bene, e che sarebbe o Claudio, quello che ha preso ultimamente Barracuda, Antonello Barracuda di Ussi, l'avrai sentito, no? Ha una bella modulazione, una bella radio, e costa anche poco, gli ho detto, a livello di Superstar praticamente. Ottima modulazione, veramente perfetta, bella, potente, mi sembra che arriva a 30 o 40 watt anche di potenza, che ha più regolazione per la potenza, mi sembra che ha 1, 10 e 30 o 40 addirittura, insomma una cosa del genere, comunque va benissimo, ottimo anche quello, che è praticamente un Superstar ecco cos'è il discorso. Avanti Gianni, doppio giù. Sì, no, ma qui su questa è stata sempre per la fatica. Ma qui è, vabbè, è squadrato con la fatica, il costo, non è strutturato. La fatica invece è bella. Comunque, se ti interessa, Gianni, il costo, c'ho anche un MP5 io, dentro la scatola, mai vigilato, l'ho comprato, e poi siccome c'ho arrivati, c'è un pubblico di arrivati dove mi sono già parata e non ci sta per l'altezza, quindi non l'ho potuto mettere, non l'ho mai usata e non so, l'ho trovato perché tanto ce l'ho perso, non l'ho usata, non l'ho mai usata. Eia, eia. sì, adesso sto guardando anche qualche microfono insieme alle radio su... su internet, su vari forum e cose del genere. Vi ripeto, adesso mi sto facendo giusto un giro di, insomma, per vedere, mi sto guardando un attimino intorno. Poi vi ripeto, adesso in questo momento è solamente osservazione, giusto per capire un po' di cose. Sì, personalmente preferisco un apparecchio analogico con pomelle e manopole rispetto a qualcosa di più tecnologico e quindi personalmente sono più portato ad una cosa del genere rispetto ad una radio totalmente digitale. Ho visto sul Ranger con tutte le descrizioni, le funzioni, quindi l'ho visto acceso, è una bella radio, è una bella radio. Però sono sempre propenso per le manopole. Ok, avanti Cla. Claudio, ma il Ranger c'ha la batteria per le memorie, vero? Cosa già? C'ha una batteria interna per le memorie. Che cosa? Il Ranger, sì, è un digitale favoloso. È tutto arancione, c'ha 8 pulsanti sopra e 8 sotto, senza poi gli altri che c'ha tutto, non ne ha tattini, è tutto a pulsanti, sai, di quelli in gomma, di quelli, e si illumina tutto in arancione, tutto illuminato in arancione. Sì, io l'ho avuto, però quello che aveva il mio era che c'aveva la batteria carica, non memorizzata. Ho venuto così con la batteria, l'ho detto che c'è la batteria scarica, che la doveva cambiare, ma a chi l'ho venuto lo sapeva come l'ha detto, io ce l'ho. Nuovo, ti mando la foto, nuovo. Sì, c'è una batteria tampone, da sostituire, ma questa è funzionante. Io non l'ho manco memorizzato, ma c'è un display, allora, sì. Il frequenzimetro, Gianni, il frequenzimetro praticamente del Superstar, allora il frequenzimetro del 440, ancora più grande del 440, ma bello, grande, dove tu vedi tutta la frequenza con i due decimali .00, a fianco le puoi mettere la frequenza, però io l'ho usato così. L'ho usato così e così l'ho rimesso dentro la scatola. È una bella radio, esteticamente è molto bella. Come dice il trasmettitore va bene lo stesso, però come qualità di modulazione io preferisco più il Superstar. Correggimi se sbaglio, mi sembra che di quel Ranger ne esista una versione, adesso non so se è più vecchia o più nuova di quella che hai tu, esiste una versione di colore grigio col display verde, quella col display verde grigia è più nuova o più vecchia di quella che hai tu? Guarda, non lo so, non ti so rispondere in merito, bisogna che guardi sul computer magari quando è stata fatta, capito? Bisogna vedere, però ti ripeto, non lo so, questa è una versione che non è molto vecchia, sarà una radio forse del 2000, oltre il 2000, ma non di più, mentre Superstar è un po' più vecchia, capito? Però sono due radio completamente diverse, una è analogica e una digitale, quindi già il sistema all'interno, uno è diverso dall'altro, perciò le prestazioni sono completamente tante diverse. Ti posso garantire però che inizialmente io sono entrato con la radio che stavo uscendo col microfono normale, lei è abbastanza apprezzabile sia come ricevitore che come trasmettitore, però superstar è più da combattimento, mi piace di più, più combattente. Vai giù. Sì, infatti il Ranger ha una ventina d'anni, 20, 22, 23 anni, io ho, che è quello stesso, così, ho il Sommercamp 789, che va appunto con i tastini di gomma, così c'è la tastiera, eccetera, eccetera, ed ha un'infinità di canali, perché parte dai 26, fa proprio 26, 26, non 26 e 8, no, 26, proprio 26, arriva mi sembra fino a 32 MHz, si può immaginare quanti canali ha sulle varie bande, no? In AM, FM e anche in banda laterale, per cui è un'ottima radio. Sì, vengo per una mossa, però è una radio che ci vuole un pochino di pazienza, alle volte quando la devi utilizzare, perché devi conoscerla bene, perché se rimani un po' di tempo senza usarla ti dimentichi com'è il funzionamento, per cui devi allora riprendere da capo. Però è un'ottima radio, veramente. Ripeto, è uguale al Sommercamp 789. Va bene. Avanti Gianni Lumbrefetta. Capa. Va bene così per adesso, dai. Adesso mi è venuta in mente questa cosa delle due versioni, quella grigia e quella nera. Vi ripeto, l'ho vista su internet, per adesso sinceramente non mi ricordo qual è che sia la più recente. Niente, sì, ho visto un video dove c'è questo qua che fa la descrizione dell'apparecchio, l'accende, inizia a smanettarci e ne elenca praticamente le caratteristiche. E va bene così per il momento, dai. Mi sto facendo un'idea un po' più chiara. Quindi i miei gusti adesso, bene o male, li conoscete. Preferisco più le manopole ai pannelli digitali. Ogni cosa chiaramente ha il suo fascino, però io rimango più attratto dalle manopole. Avanti doppio room. C'è l'artino, vediamo un video, diciamo che c'è l'artino. Sì, ci sono. Stavo guardando una gara di schiaffi, un siberiano di 28 anni, 168 kg, ha tirato uno schiaffo a uno che non so quanto pesava, però anche lui era ben piazzato, ma è passato il primo che l'ha steso, proprio coricato in terra. Sono curioso queste gare qua, ogni tanto le guardo. La mania di lavoro. Claudio, devono fare un interrogativo. Il 595 tu c'hai? Ranger 595, sì. È quello che ho fatto io. Quello che ho fatto io, sì. 595 è quello che ho fatto io. Non ho avuto per molto tempo, perché appunto, come dice Gianni Lumbrefetta, a me mi piacciono più le manopole delle criticità. La roba digitale è sempre difettosa, sempre... invece le cose meccaniche sono sempre migliori. Andrà bene. Fino... riprendite la casa. No, non è la maniera della... forse è che molte volte stai scorrendo sulla pagina, vedi questi video, mi soffermo così e mi faccio due risate, perché effettivamente sono gare che fanno la mania della forza, non so, sono gare così, loro utilizzano questa mania qua, va bene, non so, vediamo se... sei entrato per dire Franco, ci sei, che ci deve pagare a bere. Ma Franco di Sorso, e oggi è compleanno. Lo so, per quello lo sto chiamando, ma almeno virtualmente mi chiede di birra, ci beviamo, va. Scusate, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato per la cena da poco. Per cui vi ringrazio per la chiacchierata e ci sentiamo prossimamente. Ciao Gianni Doppio Lu, ciao Gianni Lumbrefetta, Tino, Claudio e chi c'è altro, nessun altro, mi sembra. tutti, e ringraziamenti a tutti per la chiacchierata. Dai, ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Avanti Gianni Lombrefetta. Ok, giù. Buona cena, grazie di tutto, grazie del QSO. E niente, va bene così, bella chiacchierata, dai, ci siete alle prossime, ok, buon proseguimento, avanti qua. Sì, sì, capo, molto bene, ciao Giulio, buon fine serata, buon tutto, alle prossime, beh, noi siamo alle 5 e un quarto radio, quindi io metto appresso a Giulio perché il carro è pronto e mi sta aspettando giù Mario, quindi dobbiamo anche andare a vedere qui. Ci sentiamo, ciao, quindi nuovo Giulio, ciao Tino, ciao Giannero Perrumo, Giannero Profetta, chiunque fosse in ascolto sul 10, buon fine domenica, buon inizio settimana per tutti, grazie per le due chiacchiere. Se ho aggiornamenti, Giannero Profetta, ti aggiorno, ok? Vediamo insomma di mettere in setto qualcosa, tu lavora sull'antenna soprattutto, che è la cosa principale che serve per andare in air, poi le radio già si trovano. Sì, già, sono d'accordissimo con te, a me il digitale non piace, tu immagini che io ho venduto la radio HF digitale che avevo 6 mesi effettivi, le due, per comprarmi il 756 della Icon che è analogico, strumento analogico, io ho tutte le radio con lo strumento analogico, sia in base VHF della Icon che Tino conosce, 275H e 820H, l'820 della Kenwood lo stesso è analogico, sempre stiamo parlando di strumento eccetera eccetera, 430, 440, insomma tutte le radio che io sono a strumentazione analogica, a me questi puntini, queste barre filettate non mi piacciono. Ok, un abbraccio a tutti, buon fine serata, alle prossime, vai Tino. Ok, va bene, dai, saluto Giulio che è andato sicuramente a fare carica, e altrettanto a te, ci sentiamo, dai, già buona cena, già cerchiamo di concludere. Chi ci ha avanzato? Gianni, avanti. Allora, io ci sono scelto a Platamona, tutta il Vulcano, nata la Ienti di Frida, sembrava l'estate, ma pieno, non c'era un parcheggio, ma stava pagato. Guarda, chiudi questo argomento perché le cagate, e le ripeto, le cagate che hanno fatto a Platamona sono micidiali. Sì, perché dalla porta non si può parcheggiare, poi hanno fatto tutte quelle strettoie, io sono andato alla rotonda, ho fatto una passeggiata, non sono fatto per miracolo perché stavo uscendo, non qua e sono entrato io, se no sono stato girato due volte, non ce l'avevo fatto, e grazie a Dio mi sono fatto una bella passeggiata, c'era un bel sole, mi ha fatto anche bene perché in questo periodo non sto molto bene al femore, fa male sempre il femore, mi si blocca la gamba, lui no, vabbè, così già fa bene prendere anche il sole caldo. Io sono sceso qualche mese fa, ma giusto per farmi un giro così e vedere un po', vado a entrare al quarto pitine perché io non ricordo che al quarto pitine facevano i migliori campeggi, forse abbiamo fatti lì al quarto pitine. Vado e mi fermo dopo 50 metri che ho imboccato l'entrata al coso, ho visto questa rotondina del capo, ho detto ma dove stiamo andando a finire qua? Boh, per carità, no, se non fa qui, guarda, ma è proprio sceso, no. Se prima ci andavo perché magari, che ne so, qualche giornata libera, sai, mi stavo quasi per appassionare alla pesca col barchino, non so se tu la conosci, ma credo di sì, e quindi parcheggiavo lì al quarto pitine, mi facevo dal quarto pitine sino alla rotonda, poi dalla rotonda sino al settimo, dal settimo di nuovo sino al quarto, una bella passeggiata un po' sacrificante, ma con qualche bella soddisfazione, solo che adesso è diventato brutto anche andare ai pitini, perché ora parcheggio al settimo e devi fare tutta quella camminata là, e vabbè, è un po' così. Sono stato un po' deluso da quello, dai lavori che hanno fatto, perché secondo me, non dico dagli anni 60, agli anni 70, 80, forse, io sono nato nel 70, quindi non è che l'ho conosciuta proprio la spiaggia del Lido, di Cantamora, come era prima in quegli anni lì, però ho visto i cambiamenti, dagli anni 60 a oggi hanno fatto una cagata, anziché migliorare hanno peggiorato, poi c'è la regola che la pensa diversamente da me, però è così. Sai, mentre si fanno le strade rotte, chi vuole fermarsi per vedere, devono fermarsi per vedere sui generali, eccetera, eccetera. C'erano le bancarelle, lì era tutto pieno di bancarelle, di quelli del torrone, c'era, non so, ma poi ho visto che c'era abbastanza gente, ma più male, più cioè, più veniva l'incontro. Infatti io con il cane non posso più parlare, perché c'è sempre gente che magari ti mette le mani sopra e cose non va bene. Che lui se non li garba si gira, no. E cosa vuoi fare ormai? Ormai non ci si può tornare indietro, perché io mi ricordo negli anni 78, 79, io mi ricordo, abbiamo fatto un sacco di anni consecutivi, campeggi abusivi al quarto pitene, allora addirittura avevamo anche la pompa sotterrata nella sabbia che arrivava vicino dove mia madre faceva la vava, faceva le cose dei piatti, insomma la roba lì, avevamo anche il bagno addirittura. Poi ma io mi ricordo che facevano con le casette dentro, le casette fatte in lamiera e con la tela del guaracchino, me ne ricordate ancora. Al quinto pittine, ce n'erano quelle. E non si diceva bene, io dico la verità, non disturbavano nessuno, era gente tranquilla, che si divertiva, mangiava la ciocca di Santa, la rossia di Agogò, era lì qui proprio Santa Rita di Grecia, insomma, si mettevano a cantare con la chitarra, cosa che tanto gli dava, a mano si può più fare mangiare, tutto, però il mio collega l'altro giorno, per mettere una fuori fuori di questo discorso qua. Ah, è tutto praticamente la moglie che l'ha fatta con la spesa, lui era col cane, si è fermato, nella puntata la seduta, la fatta sedere in camera, è stata a prendere la spesa, la stava accompagnando a casa, anche se l'ha fermata la paradale, 500 euro di multa, perché col mezzo della ditta non si può sedere nessuno, la cosa, la circolazione è fatta solo come carro e non puoi più usare. Sì, lo so. Ma Gianni del Profeta ha chiuso per caso, eh? Oh, che chiudiamo! Eia, sì ragazzi, vado, vi lascio, vado a mangiare un boccone anche io, ma mi è venuta fame. È venuta fame anche a me, quindi stacco. Comunque, grazie mille per le informazioni, grazie al QSO. E niente, dai, anche io mollo, mi sgancio per stasera, vado a mangiarmi un boccone, ci sentiamo alle prossime. Grazie mille per la chiacchierata e vi auguro un buon proseguimento. Ok, alle prossime, bye bye. Ciao Gianni, ciao. Buona carica, quando la fai. Allora siamo in due, ciao Gianni, buonasera, buon tutto. No, io diciamo che sto cercando di mantenermi un pochino durante l'arco della settimana, la domenica sì mangio qualcosina in più, ma la notte non ho qualche insalata, magari allora sì, sono niente di che. Va bene, buona cena Gianni. Eia, e allora? È uscito dall'uovo? No, comunque ciao Tino, ciao Gianni. Non so, ma sta andando, sì? Sta andando, abbastanza bene. Ciao a tutti, buona serata, ciao. Ciao. Sono appena rientrato, dai, sono per farmi un giro a Platamona. Qua da un po' non lo usavo, è sempre attaccato, però... Sono stato provo a accenderlo, se c'è qualcuno, vi ho sentito e te sono andato a salutarli. E beh Gianni. Anche se affrontavo, anche io ce l'ho, la Ieti di Frida, lui. Hai visto quanta gente? Io alla rotonda ero. Allora, per prendere un gelato lì da Ernesto, almeno perché poi non sono rientrato, sono passato a poco d'ora e poi sono salito a tratto. E poi siamo andati lì a... più avanti, dai, io ce l'ho chiamato la torretta al bar a prendere qualcosa di caldo. C'era freddo, io ho smanicato e una felpa leggera. Sono dovuto tornare indietro a prendermi giù un botto, già c'avevo troppo freddo. Però il freddo l'ho preso a faccia, aveva la faccia ghiacciata. Infatti abbiamo deciso, io ce ne andiamo, e adesso ci abbiamo mangiato una pizza anche, e poi a casa. E niente. Ti ascolto un po' maluccio però, un po' cupo. Sono con il 48, solo tu mi ascolti male. Gianni, come sta andando? No, io non lo so. Sta abbastanza freddo. Oh, Luca, ma quando sei andata tardi allora? Io sono andata freddo, verso le 5 così, capito? E se la tardi magari ce l'ha fatto, ma quando sono andata io sono andata con una manica e una maglietta sotto, e stavo benissimo. Naturalmente se vai all'ombra, ma lì era stato un sole, se andate verso il portatore non c'era stato ombra. Infatti me l'ha fatta molto la casa, sono anche la donna, ho detto guarda, al portatore se è tutto quanto ombroso. Invece a Platamona c'era un sole che spaccava le pietre, insomma proprio una bella giornata. Ho capito. Ti vabbè, abituato a sentirti bene, dai, diciamo, con la tua radio. Insomma, non è che non ti ascolto, è forte la radio, però non è chiara, capito? È un po' nasina. Scusate che non è bassa. Capito, ce l'ha portata. Alle 5 qualcosa siamo partiti da Sassari. Allora non è che si stava bene, ma il sole stava benissimo, forse non si è più. Io te l'ho detto, ero con una magliettina solo, e la tuta è fresca per me. Scusi, sono andato tranquillissimo e non avevo freddo assolutamente. E anzi, ho preferito a prendere un po' di sole perché in questi giorni c'è questo dolore forte al femore, ma non si vuole passare sulla maniera, mi dite i ultimi, tutti di più. Non mi vuole passare assolutamente. Adesso mi sono imbottito a partite e a pomana. Vediamo che ce la faccia a far passare qualche chiamazione. Casino, di dolore già fai. Allora, l'altra volta mi ho questo mal di pancia per i problemi che ho per quanto riguarda i calcoli, mamma mia, a mezzanotte, no, è forte la pancia già. Infatti lì per dire ho guardato pronto soccorso, la guardia medica, e poi adesso mettono la bustina a un occhi. E dopo un po', 10 minuti, un quarto mi è passato, cioè mi ha calmato. Questo che stava sempre migliorando, il dolore, e poi mi sono curicato. Ma brutto, Perché lui dopo che passa l'effetto quello di dollaro, lo fa finisce a mezzo, non me lo fa così. Ti copre quelle ore, ma io intanto di andare a lavorare, perché lo sai che il mio lavoro non è leggero, quindi mi sarà per i figli, questo e quell'altro, questo qui mi fermo subito sulla gamba. Ah, sono già un mese così, non mi decido andare dalla dottoressa a farmi dare nei cinturi, perché già faccio le insuline, pure le insuline. Lo so già, c'è un attimino già, un attimino che porto la luna. Io l'ho già portato, l'ho portato a Platamona, tutta la sera a fare i bisogni, tutto qua. Oh, sono rientrato, Luca, Gianni. Sì, è andato a portare la luna, fate fare i bisogni. Ah, ma mi senti cupo? No, io non sento questo, prova a fare un passaggio. Sono mezz'ora che sto parlando con questo già, sto utilizzando il 48, non è col più 5. No, sempre va bene, non è, non lo sento il 48, ma andiamo a non si sente così, magari anche tipo di decezione, capito? Infatti, può anche essere. Ovvio. Va bene, dai. Adesso mi se riesco faccio il carretto per il Lincoln e voglio provare un microfono. Solo che eravamo venerdì sera e abbiamo provato con un altro Lincoln, sicuramente ha le connessioni dell'apparato interno che sono state toccate perché stavo provando quello di Walter e andava bene. Arrivo qua, e ce l'ho preciso io, allora lo attacco e invece va male. Quindi devo fare le connessioni precise al mio, non come con quelle delle altre, se no non togliamo in piedi. No, vabbè, io ho sempre avuto la cosa, con la scusa che c'è Fabrizio che si intende un pochino di antenne e quant'altro, sai, o qualche filare o qualche cosa, la stiamo costruendo assieme, quindi stiamo andando sempre avanti, non è che, e con la scusa che abbiamo le attrezzature per poter fare qualche cosa, allora ne approfitto e faccio qualche giavetto che mi interessa a me. Pronto, sì. Sì, siamo pronti, pronti. Guarda un pochino, io adesso volevo a una distanza regolare, circa il braccio disteso, 40-50 cm tranquillamente, senza fare il tono della pubblica regolazione. Mio figlio che tossisce, che sicuramente si sentirà. Vedi un pochino, eh. Beh, te l'ho mandato. Mi è arrivato, ora sono ascolto. Cioè, il segnale è forte, la radio già è forte, però forse magari devo abbassare i toni, capito? Ma abbassare un po' i toni. Vabbè, già in pensione sei andato. Io no, ancora no. Tu ci guardi. Beh, per quanto riguarda il piede? È sempre uguale, marca, striate, sempre così. Ah, non si può fare niente. Oh, tutte le ho tentate. Ho fatto anche la camera intermanica, tu ci giro per la. Sì. No, già va bene, è che dipende anche dalla cassa della tua radio, per carità. Può anche essere, l'importante è che non sia metallica, quello che hanno un difetto, i P5 molte volte vanno troppo metallica, ma questo non credo che lo sia. No, metallica non è, vabbè, io c'ho il più 4, non so che tu mi ascolti, lo lasci pure che c'è la mia cassa, ma già lo sento bene, è quello. Comunque già riusciamo a fare due chiacchiere, non è quello il problema. Tanto me. Ti faccio parlare con l'altra, vediamo un pochino se l'altra è. Perché mi viene più male, comunque aspettaci l'altra. Eccomi, questo vai. Non lo so se è più amplificato o meno. La modulazione è sempre la mia. Vedi, un'altra musica, è molto chiara. Ormai abituata a sentirti con questa, ti. Già, confermi? Questa è gente chiara. Lo so, ragazzi, cosa volete? Non posso fare un paragone una macchina una all'altra. Ma va bene anche quell'altra. Guarda, già, lo sto utilizzando, sai perché? Per comodità, perché questa ha una mensola sul lato sinistro della scrivania e devo tenere il braccio, diciamo, alzato per poter schiacciare il mic, al contrario dell'altro che ho il mobiletto a fianco con il braccio sul rilassato e posso fare col destro guardare il PC e col sinistro schiacciare il mic, tutto qua. E infatti ti serve, diciamo, come comunità, quindi chiamiamoci. Va bene. No, vabbè, ti ripeto, ho anche un'altra, solo che non riesco. Adesso già, trovo un microfono, mi dici se sempre col 48, un microfono normale, non è amplificato. Giustamente cambierà la modulazione, però mi dici se cambia qualche cosa, se è troppo forte o meno, oppure se va bene. Ok. Sì, addirittura il vicino diceva che non poteva essere amplificata con Gianni. Gianni. Vai. Guarda, ma mi hai sentito qua quando ho parlato? Pensavo che non stavo uscendo, non mi rispondevi. Questo è normale, adesso ne provo un altro normale, mi dici qual è meglio, se il primo o il secondo, dammi il tempo di cambiarlo. Sì, questa è bella la radio. Oh, eccolo qua, questo è l'altro che ha dovuto staccarlo da una radio e metterlo nell'altra. Qual è il migliore, il primo o il secondo? Ma dirò che sono quasi simili, il primo mi sembra meglio. Ti peggio? No, mi sembra meglio. Bene, perché poi mi sta andando un pochino adesso che sta toccando qualche filino. Luca, quando ti serve non c'è mai. Luca. Tino. Guarda questa modulazione, questo è normale il microfono, Ancora cupo mi senti? 100.000 volte meglio. Vabbè, normale, non è amplificato, quindi non puoi pretendere, anzi a me piace più l'amplificazione. Per me sembra anche amplificata come modulazione. Vabbè, il microfono magari, non lo so, dovrei cambiare la capsula, qualche accorgimento, non so, boh. O dovrei aumentare la LC della radio, radio aumentata? No, è tutto. Adesso non sei uscito. Sparita la radio. Adesso sei uscito, prima non sei uscito. Allora non ho schiacciato bene il mic. No, si sentiva già un po', basta fare. Microfono vecchio già. Ah, questo problema. Basta prendere. Vai a casa, io ti ho preso tre contatti e facevo un problema. Come se sia vicino mi ha pegato il fatto. Io sento, vedo lo smitter che sta andando, però per un attimo è rimasto fermo. Sì, sì, va bene. No, però sto notando che è molto duro a entrare e uscire il corso. Cioè, addirittura si è spostato, adesso non ne vuole di fare niente. No, il pirulino per entrare, che è che si chiama, deve essere che è portato. Comunque da, mi dici che va meglio il primo che ho provato. Il primo che ho provato è lui. E poi l'altro, il Midran normale, il Midran diciamo originale, ecco. E io ho la capsula di CD montata dentro la capsula di Midran, che sono uguali. Sì, sì, però mi hanno detto che infatti ho fatto questa prova qua proprio perché lo devo acquistare, quindi prima di acquistarlo l'ho provato da un amico, l'ho preso da Walter e poi gliel'ho riportato, ne ho comprato uno da un altro che è lo stesso, la stessa marca, però non è lo stesso microfono, che comunque se va bene uguale. Sì, anche io credo che sia quello che ho sempre avuto, perché l'ho sempre conservato, la serie oro, diciamo, dai, quello con la colata d'oro. E poi invece me ne hanno regalato un altro, stesso di un amico, me l'hanno regalato originale, nuovo, insomma, usato, però mai abitato, sempre il Milan 48, sì, un po' graffiato, però originale di sé, mai fatto niente. Io gli ho fatto mettere i canali, 120 canali e la potenza dei bar. E per me però ora sta dando, esagerando, sta dando, non io vorrei collegare la Rosmetter, però sta dando 4 watt, non di più. Deve essere che si è bruciato qualche finale. No, vabbè, io guarda, si regolano, vabbè, praticamente in casa di apparato. Si regolano quante queste due fatte, per usare quotidiani così, capito? Io esco con due fatte. Sì, però io, allora, uno me l'ha fatto fare di giro, non so da chi, che mi ha detto che adesso non si trova più, e praticamente faceva da un watt a picchi positivi a 18, che non, così mi ha detto poi, non, sinceramente non l'ho mai provato, però è molto, va molto bene con il 747 o similari. l'altro invece fa da mezzo watt, da mezzo watt a 15 watt, non di più, perché era, però io l'avevo provato, non ricordo benissimo, ma infatti c'era una percentuale importante, come dico, studia la bandinata, va bene. Anche questo va bene con lineari così di con lo, come ti ho detto, con il 747 oppure con il similare oppure anche con quelli più grandi. È proprio adottato, un sistema adottato proprio per, quella, per mettere gli amplificatori un po' potenti, ecco. Io ho da, da due con una cosa. Va bene, va bene. Ma tu hai serie, serie o lo stesso? Sì, però è stato americano. Ogni tanto te ne vorrei riportare, lo schiaccio male il mic, boh. No, io invece, ti ricordi la mascherina che mi hai regalato tu? Ti credi che è rimasta molto tempo conservata? Quando me l'hai data l'indomani, se non il giorno dopo, è stata piazzata. Ma tu non te l'ho data per no, vabbè, il tempo di organizzarmi, il tempo di mettere, perché poi... purtroppo non sono riuscito a trovare il, lo smitter originale della, del 48, no, però ne ho uno che è nero, diciamo, come non mi ricordo che radio ce l'aveva questa qua, forse il Galaxy, credo. No, ma a me l'aveva piazzato Antonello Pomponio, provvisoriamente, però sai, sono quelle cose che fai provvisoriamente per sempre, purtroppo è rimasto così, e niente, adesso è questo. Invece il mio servizio è inchiodato, deve essere qualche cosa, ma non è cosa per controllare, ma si spiega, l'ho aperto, piano piano, no, questo vabbè, quando c'è qualche segnale anche forte è un po' restio a dare segnali, perché Claudio, per dire, con questo qua arriva a Nofre, mentre invece il segnale è molto più forte. Sentivi più a mio figlio che a me, è vero? Lui è così, voce bianca, quindi prepara sulla mia. Adesso è zitto perché sa che l'hai sentito. Quanto c'è? Sì. Invece Marco deve andare in 4-5. Marcolino, beh. Marcolino, Marco Roma sta inventando, che Dio lo mantenga, dai, voglia. Bene, bene. E a me come sentite? Buonasera. Quello lì che è sempre, magico. In certi casi c'è un amico che sente anche col naso. Comunque è un caso più unico che raro. Buonasera a tutti, buona domenica, Marco Scorpio. Ciao Marco, buonasera anche a te, buona domenica. Anche se sta poco. Ciao Marco, buona domenica anche a te. Ciao Tino, ciao Gianni, buona domenica. Ancora un po' di ore e poi riparte la settimana. E vabbè, dai, comunque è stata una bellissima giornata oggi, dai, ci possiamo lamentare, un bel weekend. Tu pensi a quelli a Milano invece, che anche loro domani rientrano a lavorare con il cielo che avevano e quell'odore di freddo di metropolitana o di tram, per carità. E allora meglio qua e con il cielo azzurro come avevamo oggi, come ricordo solamente qualche decennio più indietro. Molto bene. Qui dal monte, l'uomo del monte, con un vecchio Comsat che ho fatto scaldare per una mezz'oretta e sembra che stia funzionando bene. Ok, vediamo un po', ditemi un po' la modulazione, se è decente, se è tutto a posto oppure se è da rimettere la naftalina. Vai Tino. Ma per me va più che bene, segnale tu è 9-20-22 modulati, bella, presente, corposa e quant'altro, per me va bene. Gianni. Eccolo qua, ho un falso contatto, cioè no, un falso contatto, la batteria che siccome sto utilizzando il microfono preamplificato, quello da Falmo, da Fayette, e niente, come lo muovi certe volte la batteria si sposta un pochino e vedo che non, ma mi accorgo perché questo è il comitato, c'ha quella lucettina, c'ha una bella lucettina, c'ha un bel faro che si accende e lampeggia a seconda dell'intensità della voce. E ho visto che si era spento. Molto bene. Silenziosissimo, è vero già. Il valvolare ha sempre un suo fascino, una sua timbrica, ma anche nell'ascolto, ti dico, guarda, veramente vi ascolto con un audio fantastico. Nonostante gli anni, mi piace particolarmente questo ricevitore perché la modulazione è veramente bella. Nonostante gli anni, anche l'altoparlante riproduce in una maniera diversa rispetto agli altri da base, che comunque funzionano bene, tutto quello che vuoi, ma questo quando ricevi la voce è proprio, sembra un impianto hi-fi, molto gradevole. Va bene. Allora, antenna ancora a tiro muscolo, giù, là, così lontano, con un segnale invece così forte. Addirittura, così mi funge ancora di più, allora tocca spingere ancora un po' per vedere se aumenta. No, lascia così, lascia, che sennò qua partono quanto c'è fatto. Va bene. Stiamo provando adesso comunque, perché mi stavano dicendo che la radio non era bella, quella del 48. Siccome per comodità, ripeto, a me piace utilizzare questa radio, per carità, però per comodità, visto che sono al PC, molte volte mi accendo il 48 perché tengo il braccio rilassato e quando mi serve schiaccio la portante. In questo caso invece, essendo dentro, ho il microfono a sinistra, la mia piccola mensolina con la radiolina che sto utilizzando ora è a sinistra, quindi mi viene male stare col braccio stesso lungo e insomma mi viene qualche crampo magari, ecco perché utilizzo l'altro. Ripeto, provo a mettere il 48, mi dai conferma se ha cambiato qualcosa o meno, Oh K, vai col 48 che ti sto registrando. Aspetta, sono qua, innestiamo, facciamo danno. Sì, sta andando. Questa è più rilassante la posizione, non perché mi piace anche essere ben ascolto, se no non va bene. Questa è la mia posizione più rilassante, in maniera che così guardo il PC e allo stesso tempo posso essere presente e rispondere alle vostre richieste, ok? Ok. Aspetti, ho fatto il video e te lo sto mandando. Guarda qua, ti sto ascoltando più chiaro, più presente, più tutto, anche perché ho la colonnina quasi attaccata all'orecchio. Marco, qua sei più presente. Sto mandando il video, aspetta. Aspetta che vi siete sovramodulati, chi è? Ho detto, aspetta. Con questo? Sì, te l'ho detto già, lo so, io ho il seminario al tuo, a quello che avevi tu perlomeno, non lo so, io ho un LEM 200 qua attaccato. Dino! Dino! Uova! Mi hai chiamato per caso? O era l'ultima chiamata che hai fatto? No, non ti ho chiamato. No, chiamata a presto, Tino. Attentino, non agio. Vabbè, proseguite, un saluto circolare a tutti, sono stato adesso col camera. L'ultima cosa che hai detto, ti ho mandato un messaggio a te. Avete parlato in due, cosa hai detto ti? Fratella! Ho adesso, l'ultima cosa che ho fatto, ti ho mandato il messaggio. Sì, sì, dopo c'è una chiamata, boh, ti è partita la chiamata, vabbè, dai. Se non mi hai chiamato non fa niente. Infatti c'è un caldo giù allucinante. Cosa hai detto già? Hai parlato assieme a Tino, qualcosa volevi? No, ho detto che sono lì. No, abbiamo provato le pizze adesso. Stanno scaldando e adesso vado a cenare, non lo spendo più. Continuate voi e già ci sentiamo. Alle prossime. Ciao, buon fine domenica a tutti. Sì, non vado a vedermi da niente, io da. Già lo so, sono iene stanotte. Ciao, buona fine serata a tutti, vai, tiri qui. Va bene, ciao, ciao, ciao. Ciao anche a te Gianni, allora si stai chiudendo. Riprendi Marco. Vabbè dai, Tino, io chiudo, dai. Ciao anche a Claudio, ciao Tino, ciao Gianni. Se Dio vuole, vabbè, io a Baracchino solo la domenica posso entrare. Perché questo orario qua sono ancora giù. Io l'ho staccato, non mi interessa quello, poi se qualcuno stava lamentando anche. Cioè quello dice non mi guarda manco più in faccia. Bravo, ciao. Questa è importante nella modulazione. La prima è molto amplificata. Ma è importante chiedi. Ma sta uscendo. L'importante c'è. Non mi senti tu? Sotto ti sento. No, anche Tino arriva, ma c'è una portante, non sta uscendo, forse qualcuno che non sta uscendo. Dai, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Tito. Ciao Marcolino, Marcolino Condo. E qui ce lo posso anche io. No, deve essere Marco. Ho capito. No, Marco Scorpio deve essere che non sta uscendo. Marco, hai fatto un passaggio enorme ma non sei uscito in radio. Ma lo passo. Sì, è Marco. Ciao Marco, non stai uscendo. Non stai uscendo, Marco. Ciao Marco. Sì, è Marco Scorpio che non sta uscendo. Dai, metto a posto il microfono. Ciao Marco, non sapevo che c'era anche tu. Ciao a tutti che è pronta la pista. Ciao. Buonasera a tutti, dai, ciao Gianni, ciao, va bene, siamo qua, dai, se coincide anche dopo. Ciao. Marco non sta andando, non sta andando la classe. Cambia radio. È la batteria, mala sorte. Adesso sta funzionando. Ho tolto lo sportellino e ho grattato un po' la linguetta dove si appoggia la batteria, capito? È quella la linguetta che fa. L'ho grattata un po'. Mi stavi dicendo Marco che non ho capito cosa, anche perché forse c'è stata una sovramodulazione quando mi stavi dando delle spiegazioni. Per quanto riguarda questa modulazione? Allora, intanto non so se sono uscito quando ho salutato a Claudio e a Gianni e ho sentito poi che c'era anche Luca, il vicino. Ciao Luca, buonasera, buona cena a Gianni e a Claudio, allora che si sono notati. Ecco, adesso vedo che sta uscendo sempre, con continuità, sì, vedo che sta funzionando. Babbo, lo sportellino ce l'ho ritaccato, ho grattato un po' la linguetta e adesso sembra che ora, sì, se continua a uscire. Praticamente con la seconda radio hai aumentato anche di segnale T, il video te l'ho caricato e te l'ho mandato. La prima ha un'amplificazione molto alta, ma con un effetto di preamplificazione tendente un po' al metallico. La seconda, e apprezzerai dall'ascolto, invece è più naturale, cioè è molto amplificata, non in maniera esagerata, ma è una riproduzione fedele della tua voce, capito? queste sono le cose che si riscontrano. Adesso se lo hai ricevuto, fammi vedere lo hai già ricevuto, perciò lo ascolti e vedrai, e guarda anche lo strumento che ho filmato. Con la prima arrivi un pochino fra il 20 e il 30, mentre con la seconda mi vai a imballare il 30 a fondo scala. Ho capito, quindi con questa, perché vabbè, questa è aiutata con un M200 piccolino, ma affidabile, molto, molto ristretta la cosa, però gli dà tutti, gli dà per bene. Questa qui che cosa è come radio? Questo è sempre il 48, Marco, 48 è una coppiata con il più 5. Aspetta, facciamo girare anche a Luca. Luca! Ehi, Marco, ti dà una minuto. Antenna anche a te, se no facciamo ping e pongo con Tino, che a ping e pongo Tino è forte ed è un problema, che si braccia, gioca, lui è grande così, hai perso. Cioè, suonato, mi sa che oggi, si è passato in macchina, non so se hai sentito un clacson, comunque ti ho suonato io. Con la Ford? Sì. Allora, io non ti avevo visto, me l'hanno detto le bambine, mi ha detto mica c'è un tuo amico che ti ha suonato, e poi dallo specchietto ho visto che c'era l'antenna fuori, me l'hanno detto, ma io non ti avevo visto, ho visto solamente un attimino di sfuggita la macchina, non mi ricordo una Ford, però adesso è inutile stare a dire il modello e la targa, ma non ti avevo riconosciuto, Ollu. Comunque la Ford Fiesta, modello anno 2006, modello penultimo modello, non so se è il penultimo, non ne capisco niente io di... Vabbè, comunque già eri tu. Stavo andando in campagna, che dimmi l'orario più o meno, mezzogiorno? Sì, più o meno mi pare a mezzogiorno, forse mezzogiorno e mezzo, una cosa del genere. Era tornato in campagna, sì. Prima di tu non stavi uscendo, come mai? No, c'è la batteria con il tiro, questo è la Fayette della Nudre con la rotellina sopra, e ci sta la batteria da 1,5, che tra l'altro hanno cambiato le misure o c'è qualcosa per cui. Comunque la batteria non c'è, la linguettina dal lato della massa che era un pochino ossidata, ma leggermente, ovviamente ferma come la lasci un po' di tempo, si crea un piccolo velo di patina e non fa contatto. Ho aperto, voi quando ho staccato e avete detto così, ho aperto, ho provato a grattare, a muoverla e niente, poi allora l'ho tolta e l'ho grattata un attimino con la forbice, e ho visto che adesso sta rifunzionando, ci ho rimesso lo sportellino e ogni volta fa così. D'altronde anche questo microfono è del 70, gallina canta, non lo so, comunque è vecchissimo, sarà del 74, 76, una cosa del genere. Il microfono Lafayette in accoppiata per il Comsat valvolare. Cosa volevo dire? Pertino invece, mentre la prima T che cosa era? E il segnale, visto che c'è differenza di 5, adesso lascia perdere le tarature di strumenti che sono sempre una cosa così alla garibaldina, perché se vai a guardare 10 radio non abbiamo mai la stessa indicazione, ma invece con la stessa radio è evidente una differenza di almeno 5 dB da una all'altra. Ho fatto l'inquadratura dello strumento perché ho visto che proprio con questa qui, con l'Alan basta sua quasi più 30. Sì, no vabbè, l'ho ascoltata a intervalli perché stavo rispondendo a mia moglie, alzando abbastanza e poi alla fine ho capito qual è. Allora, la prima era il 44, questa qua è il 68. Dopo ascoltatele in calma, se c'hai delle cuffie mettiti le cuffie e ascolta e vedi che differenze ci sono fra una emissione e l'altra. Luca, ma nella macchina antenna non ce n'è la piazzata sulla capota, antenna da competizione qua. Un attimino, scusate, ma io volevo rispondere a un messaggio. Fai, procedi. cosa volevo dire? Niente, sì, le burattini sono tutte e due molto forti, ma questa seconda è più naturale, cioè sembra più la una voce normale, quell'altra è bella amplificata da combattimento, è più da guerra, dai. Ho capito, ho capito. No, vabbè, ma secondo me, ti ripeto, o si carica di onde elettrostatiche, magari sto dicendo anche una stronzata, correggimi se sbaglio, però dall'ultimo lavoro che è stato fatto in questa radio qua è successo che il potenziometro è stato messo dietro la radio, quindi cosa succede? Che basta non niente che si alza, si abbassa, però quando noto che la modulazione è troppo forte, cosa faccio? Vado a con le dita a toccare il potenziometro, sembra che si scarichi e poi va in tranquillo, si abbassa anche di amplificazione. Può essere adesso che magari è così, magari sto dicendo una stupidaggine, correggimi se sbaglio, ti ripeto, però ho notato questa cosa qua, vado a abbassare, invece non abbasso niente, lo sfioro solo e la modulazione va bene. Allora lì, in quel caso i solenoidi che sono all'interno dello scatolotto del variabile possono esserci mille fattori. Uno che può essere che i solenoidi possono essere già un pochino spaziati fra uno e l'altro nello strisciamento, eccetera, oppure essendo magari un componente di recupero che possa avere che subisce delle variazioni, delle derive termiche, oppure insomma più cose. Però innegabile è questo fatto che tu riscontri questa differenza. La cosa fastidiosa è che te la devono dire gli altri, cioè se tu per assurdo dovessi utilizzare quell'apparato in condizioni di attività di chiamata, di banda laterale, cose del genere, attività di ex eccetera, cosa ne sai se stai uscendo distorto oppure no? È comprensibile questa tua affermazione. Sicuramente forse magari bisognerebbe provare a sostituirlo e metterne un altro nuovo, provare a vedere che se questo effetto perdura oppure si è perso, perché il fatto che sia lì dietro nella parte posteriore dal punto di vista della circuitazione non cambia assolutamente nulla, non è che perché lì vicino al bocchetto dell'antenna a 10 cm deve se così fosse ci sarebbero interazioni con tutti i componenti che sono all'interno dello chassis, no, questo assolutamente no, mentre diverso è quello che ho detto, che il componente potrebbe avere delle lacune dettate dal tempo, dal fatto che dall'usura, dalle tolleranze, mille fattori. Certo, la cosa più semplice sarebbe toglierlo, identificare il valore di quanti ohm è, metterne un altro e vedere se invece si stabilizza, se questo problema non si presenta più. Sì, è vero. Vabbè, però adesso ecco perché sto utilizzando anche questa, primo per comodità e poi perché quando la dovrò togliere da lì non risetto il mancamento, perché dovrò darla, come tu sai, all'ingegnere per farla curare, perché so che adesso è pieno di lavoro, quindi non mi ci metto neanche io a rompere le scatole, non è così importante, però quando ha un po' di tempo, ci siamo già sentiti, quindi quando c'è un po' di tempo gliela do per vedere un po' questo fattore qua, anche perché ti ripeto non è comodissimo, perché essendo attaccato al muro mi devo alzare, devo lì sfiorare, toccare, fare, invece dall'altra maniera quando ce l'è a frontale è più accessibile la cosa, più ordinata e più tutto, e quindi va bene. Anche perché, visto e considerato che questa radio l'ho sempre utilizzata, Marco, anche essendo una scatoletta di tonno, riesce ad andare ancora, nonostante i suoi anni, che ha, non sono come quando abitavo lì alla Provoce, che prendevo colpi da tre parti, ora qua sono l'unico e l'inimitabile trasmettitore con Noai, e quindi non nessuno mi dà colpi qua. Ti dirò di più che sicuramente quello è una delle condizioni più importanti per cui non hai problemi di splatter o cose del genere, perché altrimenti quella non si potrebbe utilizzare se fosse in città o in prossimità di altri. Ma per il traffico che c'è anche in città, ti dico, non credo che tanti canali mi qua oppure sul 20, sul vintage, poi non vedo attività negli altri canali, c'è poco, c'è niente, o raramente a fare qualcuno. Mentre se tu non lo dici, potrebbe essere qualsiasi radio importante, perché come hai detto è una scatoletta, ma sta funzionando molto bene. Quegli apparati hanno questa caratteristica di rendere in maniera eccezionale qui in AM, e vanno bene, c'è poco da dire. Con questi doppio modulatore, con questi truccamenti, abbassamento di testata, travasi supplementari, viaggiano forte, viene fuori una fantastica modulazione con una scatoletta, ma che se ne frega degli scatoloni grandi. Se li mette in saccoccia, si mette in saccoccia radio di migliaia e migliaia di euro, addirittura radio, come ben sappiamo, addirittura radio amatoriali, che costano tantissimo, che invece in AM non servono, vanno anzi proprio fanno schifo, addirittura non c'è verso di farli andare. Gli AESU sono ad esempio Mark 5 o cose del genere, non vanno manco persone, e quella invece è una bella radio, una bella emissione in AM. Sì, e non hai tenuto conto che ho elaborato anche lo scarico, quindi quella cosa molto importante è dargli un pochino di spinta in più per scaricare meglio. Adesso stavamo provando, ci ha preso un po' di tempo anche venerdì, con Fabrizio mi è venuta l'idea di fare un capetto per poter attaccare l'MC al Lincoln. Questa è una cosa che mi è stata detta, l'ho voluta mettere in opera tramite l'aiuto di Fabrizio, anche se non è purtroppo, ne dico purtroppo e ribadisco purtroppo, non è andata a buon fine, perché abbiamo utilizzato un Lincoln, un President Lincoln che era buttato appoggiato nello scaffale, però sicuramente c'erano le connessioni diverse dal mio, quindi lì tendeva quasi a funzionare, però non siamo riusciti a farlo andare al 100, mentre invece qua l'ho provato, questo capetto Marco, faceva down e up, funzionava benissimo, la portante funzionava benissimo, andava a modulare e non usciva di radio. Molto sicuramente c'è il microfono, il cavetto della capsula che ho sbagliato, oppure non so, adesso domani porterò anche la radio e se ci avanzano 5 minuti con Fabrizio proviamo a fare questa prova qua. Anzi, adesso me l'hai ricordato, devo staccare anche il mio microfono, perché porto anche il microfono per il sicuro, onde evitare di andare, tornare, fare, ho tutto quanto lì e faccio tutta la barra. Sì, QSL, e magari ci vediamo anche, perché domani ho appuntamento lì nel subito, fine dopo pranzo, anzi non so neanche forse se pranziamo insieme o meno, ma perlomeno subito dopo devo venire lì per i discorsi del contest assieme al resto della ciurma, capito? E magari vediamo. Certo che è fastidiosa questa cosa del cambiamento delle connessioni dalla parte della radio, io non capisco, questo l'ho riscontrato su qualche apparato, anche io ho questo problema, Normalmente è più semplice variare le connessioni dal microfono, perché prendersi l'appento di variare le connessioni da dentro la radio? È veramente strana come cosa, non lo so. Però anche io c'ho, ad esempio, ho il due Galaxy Saturn Echo da base, e uno ha le connessioni in un modo e l'altro ce l'ha in un altro. Vattela a capire come è possibile. Infatti adesso, appena c'ho tempo, ne ho un po' da aprire di queste radio, ma fra le varie cose li rimetto come da layout della casa madre, nelle stesse condizioni che dovrebbero essere, in maniera tale che il connettore sia corretto, e al limite, se ci sono da fare delle modifiche sui microfoni, se cambi solamente, apri un attimino il connettore, sposti il piedino della saldatura, sono quattro piedini, poi non è che ci vuole granché, ma cambiare la saldatura dentro la radio è decisamente strana come cosa. Comunque, così è. Sì, sicuramente è stata fatta questa operazione qua, perché se lì funzionava, non dico al 100, ma funzionava, tenendo conto che le radio sono molto vicine, non era perfetta la modulazione, però stavo uscendo il radio, quindi ho detto vabbè, lo collego a casa, come mai? Non sto uscendo, sì, ne avevo io. No, anche io credo che, non lo so se la mia o la sua è stata toccata all'interno, effettivamente, come stai dicendo tu, la cosa preferibile è fare qualcosa al mic, non all'interno della radio o meno, come solitamente si dovrebbe fare, per carità, perché è anche la cosa più semplice, anziché stare a aprire la radio, oppure magari è stato fatto qualche collegamento lì perché è stata toccata la radio, che cavolo, so, uno si immagina un po' di tutto, però la cosa più semplice è toccare il cavetto del microfono, tanto è vero che il 5 puri mio con il 5 puri di Walter non combaciano, quindi qualcosa ci deve essere o in una o nell'altra, c'è poco da fare a girarci intorno. Sì, anche perché poi quando vai a fare delle connessioni per un altro microfono che acquisti, che vuoi provare, eccetera, prendi le connessioni della radio, guardi nel manuale, e nel manuale c'è il mic, la massa, il push to talk e il negativo del push to talk, e in un attimo fai il collegamento. E la seccatura invece, se questi cavi sono stati variati, perché poi il layout di come sono stati variati non esiste, non c'è. Devi, per carità, non è che non li ritrovi, però è fastidioso, ci devi stare un po' e devi andare a provare, a fare, cioè non conviene mai fare questa cosa di variare le piedinature della radio. Le piedinature si variano nel microfono, ma cosa vuoi ti dica, comunque pasticcioni, ciafuglioni ci sono sempre, e creano questo. Poi tra l'altro si parte al più, vabbè, cosa me ne frega, tanto è per me, poi io lo so, io qua, poi la radio la vendi e poi gli altri che la comprano si trovano così con questo disagio. Lì la cosa migliore sarebbe scaricare da internet le istruzioni, vedere la piedinatura originale e riportarlo così, e sulla base di quello puoi fare le connessioni per il microfono. Questo è il lavoro più corretto. Vabbè, la signora mi ha chiamato, la cena è già pronta, anzi siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Carottino qua, mi sa che l'uomo del monte passa in a EQRT, non so, poi se c'ho voglia, tra là spengo tutto, valvole comprese, poi se c'ho voglia salgo più tardi e magari come sempre una bussata o qui o su per vedere se c'è qualcuno. Non ho neanche sentito Diabolic, forse perché aveva messo la tutina a lavare e allora non poteva entrare, si è macchiato mentre stava pranzando. Vediamo se dopo che se si è asciugata si ritorna. Ciao, buona cena a quelli che sono in ascolto, buona domenica. Marco Scorpion in QRT, ascolta il tuo passaggio e poi su Onfo, e chi si è visto si è visto. Ah, ecco, adesso hai detto Marco Scorpion, io pensavo che veramente avevi cambiato nominativo, l'uomo del monte. No, è l'uomo del monte sono sempre stato, ma l'anno 3, quando allora ancora andavo in giro con le con i Bermuda e con le cose, come si chiamavano, quelle che erano aperte, con i calamari, capito? Con i calamari, infatti quando camminavi usciva la schicchiata nera dei calamari. Capito? L'uomo del monte, Marco Scorpio, da su, dalla parte, da Filigheddu, non altissima, ma Filigheddu altina, sicurati. Ciao Marco, ciao. Buon fine domenica, buon tutto, eh. Ho finito adesso di cenare. Ciao ti, riprendi. Ehi, non dico, se te l'hai mangiata la pizza te l'hai bevuta. Aspetta. Va bene Marco, dai. Poi si è macchiato la tuttina, strano, non succede mai. È una cosa che è raro. Comunque. Speriamo che si asciughi, così almeno lo consentiamo. Va bene. Marco, ciao. Buona carica, buon tutto, dai. No, io sono in Ramadan, mi sono deciso, ho detto già da poco, no? Sia a pranzo che cena, niente, se è proprio un'insalatina devo scendere di peso, quindi sono costante e determinato. Va bene Marco, nel caso se coincide ci sentiamo. Ciao, buona cena, riprendi classe. Gappa gappa, ciao Marco Scorpio, allora, ti, poi te ci invita a mangiare maniato, scusate che male ce n'è anche andato, ma c'è la madre che non sta bene, quindi ha fatto le pizze, è rimasto un attimino, ha mangiato anche lui, un trancio se n'è andato, immaginate tu, niente, ma no, tanto ho mangiato una pasta, un po' di salata, un pasta del mondo, l'ho fatto là lì, che brutto. E niente, avevo la radio accesa, ho detto manco la gente, cioè non so di chiamare questa volta, ci sono andato a fare le battute. Bene mera, e così è, vabbè. E ti, non ti fa di male, non se ne rimagrisci qualche chilo. E a me mi hai visto, ma io sono sempre cicciottello, tu qualche chilo hai preso però. Anzi, e l'ho anche perso. Sì, vabbè, ma devo ancora scendere. Io sono sempre a tre cifre ancora, ci manca poco alle due, però sono sempre a tre cifre. Minchia, no, io ero 90 e sono sceso a 87, però la struttura mia è quella. Io ci ho provato tante volte, non mi trovo, non riesco a percepire il gusto. Bere non sto toccando niente, nulla, un bicchiere di vino rosso, a pranzo, ma proprio bicchieri di quella cucina, bassi, piccoli così, o a pranzo una cena, e basta, fuori non sto toccando più niente, nulla, un caffè la mattina e basta, così almeno ho il gusto di mangiare qualcosa, sì, se no veramente da impiccarsi, a bruciare già sto bruciando, perché quando vado in campagna già zappo, qua mi domani. Sono tutta la mattina con il martello pneumatico, devo fare i buchi nei brucchetti perché dovevano mettere i paletti nuovi della recinzione del serbatoio del gas, e quindi lo facciamo io un altro del condome, perciò che non mi muovo, però ecco, serve le luci. Mangiare è la cosa più bella, mangiare è... Lo so, però oggi come oggi tu sei benissimo che tutta la cosa buona fa ingrassare e fa male. La cosa che non ti piace è come le verdure, perlomeno a me le verdure, diciamo più no che sì, però anche quelle ci vogliono. Solo che io sono carnivoro, ragazzi, io sono carnivoro, a me piace troppo la carne, sia cotta che cruda. Vedi, io sì, diciamo che la carne rotta mi piace, però prima quando ero nono piano mi avevo fatto anche l'angolino al poggiolo perché non avevo fatto nessuno, perché me la facevo molto arrosto, il pesce eccetera. La seconda non più fatto niente, adesso quando insomma si va in campagna un po' di carne la stiamo facendo di nuovo, però anche pesce. Capito, ieri abbiamo fatto i polpi, insomma si fa, dai, tu sei in campagna quindi lo sai. Però non ne approfitto molto io, Tino, non ne approfitto perché a me anche l'acqua mi fa ingrassare, non c'è niente da fare. Poi il lavoro adesso non ce l'ho più, nel senso che non sto più lavorando, quindi brucio meno, perché non è che io lavoro tre settimane, io quando dico no, oggi ho fatto nulla, prima non lo potevo dire, capito? Quindi in quei giorni magari che stai fermo, che non fai niente, mangi, bevi, dolci qui e là, Siamo a tre giorni che stiamo mangiando dolci, eh. Abbiamo portato da venerdì, sabato e anche oggi. Oggi portata sempre la campagna, avanzata, una bella teglia di tiramisù che aveva fatto l'aria come quella che fanno loro lì al Taneti, no? Con gusto, appunto, tutto quello che ci vuole, però c'è la ricotta in mezzo, il cioccolato, tutto a scaglie, gratinato, satinato, levigato, io non si muove. Lo so, è così. Ma no, oggi ne ho approfittato anche io, mi ho mangiato qualche dolcino e giustamente il digestivo, perché la domenica me la concedo. Però entro settimana, ti ripeto, sono a regime. E se riesco devo continuare sino a che. E fare morire. Va bene, ok. 10 minuti circa, dai, mi servono, che devo portare la pappa al piccolo Buddha. Neanche lui ha le sue esigenze. Se coincide, a più tardi, dai. No, fatti, dai, piena libertà. Certo, la foto che hai sei tu. Vabbè, forse ti ho conosciuto un po' più avanti, però il tuo viso da ragazzino, stessa pettinatura, alla Marlon Brando, non c'è niente da fare, sono uguale a te. L'altro mi sembra un po' più si assomiglia a Marisa, ma il grande è uguale a te. Quindi sono in due, non ti preoccupare. Ciao, un abbraccio, se coincide a dopo, lascia tutto acceso. Perché no, magari due chiacchiere ce le facciamo anche dopo, ciao. Ok, dai, a dopo Clara, già preparo il latte a Nicolas e poi già sono di nuovo qua, tanto ancora è presto. Va bene, a dopo, ciao. Ma perché quanti ne hai? Non ne hai due? Allora, due. Chi è che mangiamo latte di notte? Il piccolo? Il piccolo Nicolas. Ma quanti anni ha quello che c'è nella foto? Sei anni. Madre di Dio, continua a mangiare il latte, che Dio ti benedica. Ebbene, me ne va via 12 anni, dice Maria Gara. Bravo, continua a mangiare il latte come faceva papà, ciao. No, Gabriele ha 12 anni, lui è assì. Sì, ma Gabriele è da 14, io pensavo che almeno 10, 11 se li avesse. 16 anni. E Dio ti benedica! E poi voglio il latte. Vabbè dai, che te lo preparo, a dopo. Ciao, non glielo dare come ce lo davano a noi, mi, con la sfiarattina vetro di quella romani per cucinare la pasta. Ciao! No, lui si mette, sì, se ti biscotti gli schiaccia e poi si entra a fuoco. Ciao Nicola, un abbraccio, ciao, ti sentiamo dopo. Ciao per me, adesso a proposito di mangiare, mi hanno mandato un messaggio se volevo Ricci, porca miseria, oggi li hanno fatti. Vedi, quelli sono interessanti, allora hanno fatti Mario venerdì e abbiamo fatti subito crepati, una bella bottiglia di quelle da Viace grande, quelle giganti. Adesso vediamo, fammi sapere se ne ha. Mi ha mandato il messaggio, è appena arrivato, se a voi ne ho 20 bottigliette, mi ha detto. Adesso io 4, 6, 7, 7 gliele prendo sicuramente perché ce le avevo ordinate. E poi vabbè, li ha fatti oggi, quindi deve vedere per forza domani. E il 7, vabbè, ma li devi dare. No, 4 me le devo tenere io e 3 le devo dare. E poi basta, se li vuoi te li prendo anche a te. Ma tu hai 20? A 10 la boccetta, sono da boccetta tipo di frutta. E basta per fare una pasta a 3. Cos'è? Fare una pasta a 3, basta. A fare una pasta a 3, ma io solitamente ne metto, ne abbiamo messo 3 boccette e ho fatto una pasta per 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone, con 300 grammi però, 200 grammi esce ultimamente, io solitamente con una boccetta ne faccio 400 grammi, dai. Quindi, vabbè dai, fateli dare due anche per me, dai. poi ci sentiamo domani. Va bene, adesso lo chiamo, però se poi magari se lo vende, perché lo sai che appena si fanno poi devono dare il bando, se no se le lasciano in frigo sono spacciati, meglio freschi. Ehi, così mi ti metto da parte quel microfono della standard che ti ho detto che può esserti utile, perché il connettore a 4 è quello di quelli stretti, lo tagli che non serve a niente, ti metti un connettore a 4 normale, però è un ottimo microfono dinamico, e poi ti do quel cavetto che c'è il connettore a 4 già pronto, spiralato, che ti può servire per collegare un altro microfono. Ehi, porta anche la radio, poi ci sentiamo, così almeno la proviamo direttamente. Dai, sentiamo domani comunque. Ti devo mandare, Claudio, questo mi sta tirando, mi vuole sbronare. Vai tranquillo, che ci sentiamo domani mattina, ciao. D'accordo, ciao, ciao, grazie. No.